può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24, il numero verde come ogni sera per intervenire in diretta sui fatti di attualità. Se volete interagire con noi in diretta potete anche cercarci su Twitter, l'account del programma è chiocciola, si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi, e poi c'è anche Carlo Gabardini che è tornato. Buonasera a tutti. Eccoci qua. E il mio è chiocciola Carlo Gabardini. Molto semplicemente, allora ricordiamo anche il numero per i vostri sms 349-238-6666, abbiamo detto praticamente tutto, cominciamo con i titoli di Sky CG24. Berlusconi cresce il fronte dell'amnistia, la questione decadenza resta il nodo della politica. Tagli alla pubblica amministrazione, il Consiglio dei Ministri rinvia a lunedì il voto finale. A Sky G24 Parraschiavone, ex boss De Casalesi, collaboratori di giustizia, il vero business, la terra avvelenata. Libano dopo esplosione, 29 morti, 350 feriti a Tripoli, Israele bombarda, obiettivo a sud di Beirut. Rientri sotto la pioggia, arriva la perturbazione atlantica che si intensificherà nel fine settimana. Calcio, polemiche, il tecnico del Milan Allegri difende Balotelli, lui col problema razzismo non c'entra. Il nuovo gioco del Monopoli è praticamente centrato, diciamo così, sulla speculazione finanziaria, anziché gli immobili si tratta di azioni, di titoli finanziari, e in più anche chi bara non va più in prigione. Non gioco più. Visto che, diciamo, molti dei problemi legati alla crisi sono dovuti appunto anche a una mentalità che di fatto ha consentito, in assenza di regole, di creare quello che abbiamo visto in questi anni, credo che intervenire anche su una questione che ha a che fare poi con la mentalità corrente sia tutt'altro che insignificante. Luigi Bobba, uno dei parlamentari del PD che hanno firmato la lettera all'ambasciatore americano degli Stati Uniti in Italia per chiedergli di fermare il Monopoli. Cioè, non è stata una svista, un errore, come ha detto Gozzi ieri sera da noi, un colpo di sole. Cioè, sono convinti. E ci tengono moltissimo, mi sembra. E tra l'altro con una mestizia e una tristezza che voce, che dice no, perché il Monopoli non va bene. Su, ma io Twitter dico, ovviamente, ma... tutti, ecco, scrivono di questa cosa. C'è qualcosa su Twitter? Sì, da Riccardo Boca che scrive: invece di combattere il Monopoli, i deputati del PD dovrebbero combattere i monopoli. Ma io appunto dico, ma invece di fare una legge in Parlamento contro gli eccessi della speculazione finanziaria, per esempio, visto che è parlamentare, no, fa la lettera all'ambasciatore americano per chiedergli di tirare il Monopoli. Perché hanno tolto la casella della prigione. Probabilmente la sostituiranno con quella degli arresti domiciliari, direi, almeno per la versione italiana, no? O la legge Severino. O la legge Severino. Sei incappato nella legge Severino. Vabbè, poi c'è sempre Bobba, che lo vogliamo sentire, che dice: ma l'ambasciatore americano ha risposto a questa lettera? E lui, sentite cosa dice? Avete avuto, come dire, un feedback dall'ambasciatore? Non credo, adesso io sono qua, non lo so, ma non credo proprio. Cioè, l'ambasciatore praticamente, vabbè, non ha risposto, non ha ritenuto, non ancora starà pensando, esatto, cosa scrive, esatto, in questa lettera. Risponderà con, non so, un gioco tipo lo Shanghai, gli manderà, diciamo, in omaggio per proporgli un'alternativa. Esatto. Anche oggi una canzone, una musica, Non gioco più, di Mina, del 1974. Anche qua siamo andati a pescare all'indietro, però una bella scelta, perché insomma col Monopoli ci stava, però ci sta anche con il gioco delle parti tra chi sarà a rimanere col cerino in mano in questa situazione? E quelli del PD che votano contro Berlusconi o quelli di Berlusconi che faranno cadere il governo in caso di questo tipo di voto? Sentiamo un po' di dichiarazioni su questo di Giornata Alfano. credo che questo sia stato un atto di visione, di generosità e di grande amore per l'Italia, che sarebbe davvero un peccato disperdere con scelte egoistiche della parte con cui noi collaboriamo. Tu parli e non ti sento. Questa invece è l'onorevole De Micheli del PD. Quindi il cerino, come lei ha fatto prima una battuta, non ce l'abbiamo in mano noi. Sono decisioni di riorganizzazione politica che il PDL deve fare al suo interno rispetto delle scelte che deve prendere, anche perché comunque nella sua nuova condizione Berlusconi potrà continuare a dare indicazioni al suo partito su cosa fare, su come muoversi. Se ti faccio male. Questo governo è stato costituito in uno scenario che non era diverso da quello che registriamo oggi. Sapevamo molto bene che ci fossero delle sentenze in arrivo, sapevamo molto bene, non da oggi, la situazione in cui Silvio Berlusconi si colloca, in cui il Popolo della Libertà si colloca. Adesso non è che arrivano le mammolette, si svegliano e dicono no, sono cambiate le cose. Cioè la Bergamini del PDL dice il PD lo sapeva già che c'erano queste condanne che potevano arrivare, quindi ci poteva pensare prima a fare il governo. Cioè di fare il governo poi... senza, ma pensarci o non pensarci è l'unico governo possibile, quindi... No, non solo, ma il PD il governo lo vuole fare ancora col PDL, non è che non vuole fare il governo con un partito al cui capo c'è un pregiudicato, questa non è la questione, vuole continuare e vuole che il capo di quel partito faccia il famoso passo indietro, che invece Daniela Santanchè, sentite come risponde alla domanda sulla successione alla leadership. No. Chi sarebbe il candidato premier se non è lei e non è Marina? Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi. Se non avete capito abbastanza, io non ho capito bene, esattamente. Silvio Berlusconi. Oh, sentiamo in chiusura, va anche un Del Rio però, perché c'è anche il tema dell'IMU. Secondo alcuni retroscenisti, che la sanno lunga, Gabardini, non come te o anche me, il tema dell'IMU è molto intrecciato, perché insomma ci sono delle concessioni da parte del PD al PDL sull'abolizione totale dell'IMU, per non dare al PDL un pretesto per chiudere l'esperienza di governo del governo Letta, però il ministro Del Rio si è messo un po' di traverso e ha ribadito il concetto caro a una parte almeno del Partito Democratico: non bisogna togliere l'IMU a tutti, i più ricchi devono continuare a pagarla. Sentiamolo. Cancellare l'IMU per tutti. Io credo che invece si possa chiedere in un momento così a coloro che hanno le possibilità di continuare a contribuire ai bilanci dei loro comuni, visto che hanno la possibilità poi di utilizzare il principio liberale che veniva citato da Bonanni anche poco fa, cioè vedo, pago e voto. Oh, c'era anche la gustosa serie di punzecchiature tra Daniela Santanchè, Gasparri e Cicchitto, cioè... Sì, però direi che in questo Falchi momento fra Colombo, di loro hanno smesso di scriversi dei tweet su Twitter. Però c'era un tweet che di Gasparri... Santanchè scrive: si può governare insieme al partito delle tasse e delle manette? E invece Gasparri direi che si sta occupando d'altro, perché scrive: De Magistris verso le dimissioni, ma il fratello rimarrà. Quale dei due fratello? Quello, cioè, il sindaco si dimette e rimane il fratello al Foro delle Culture, o il contrario? È no? Questo che è, io no, penso che sia un gioco però molto... in realtà dovrebbe essere il fratello Claudio che fa un passo indietro nel Foro delle Culture. 29 minuti fa del resto, ha twittato questo Gasparri. Non so Gasparri come fa a saperlo, però De Magistris da noi aveva detto che c'era una questione di opportunità e quindi sembrava che fosse aria di passo indietro per il fratello. Però c'è anche un tweet di Gasparri su Fassino. Sì signori, di 22 Gasparri minuti fa. Gasparri fa tutto, informatissimo su tutto. Sta twittando tantissimo, dice: Fassino in vacanza su super barche del banchiere Bazzoli, yacht club Monte Carlo, bandiera straniera. E le tasse? Fassino, che dice? E lo manda a il PDL, quindi lo manda diciamo un po' a loro stessi. Qualcuno ha avvistato Fassino sulla barca di Bazzoli a Monte Carlo? Sarebbe comunque interessante, è una foto magari su qualche giornale scandalistico nei prossimi giorni, chissà. Salutiamo Deborah Serracchiani, buonasera. Buonasera a voi. Governatrice del Friuli Venezia Giulia, grazie per essere con noi. Prima però facciamo una pausa subito obbligatoria per il traffico e poi torniamo tra un attimo. Vogliamo chiedere prima di tutto a lei cosa ne pensa della sortita del sindaco di Roma, collega di partito, Ignazio Marino, che ha detto: tutto sommato, per amministrare Roma 4.500 euro non sono abbastanza. Poi gli altri sindaci non gli sono andati dietro, non è momento di fare rivendicazioni salariali forse, però vogliamo sentire la sua opinione su questo, lei che in Friuli ha tagliato i vitalizi da poco. Traffico. And now the good news. Il reddito di cittadinanza esiste, almeno a San Giovanni d'Asso, il più piccolo comune della provincia di Siena, con meno di 900 abitanti. Qui il sindaco, nel tentativo di ripopolare il borgo, ha promesso un contributo di affitto di 300 euro mensili alle coppie che volessero trasferirsi. Questa sì che è ospitalità. Si può fare l'attualità. Anche d'estate. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Potete cominciare fin da adesso a prenotare il vostro intervento, anche se adesso siamo in compagnia di Deborah Serracchiani. Allora, la domanda gliel'ho praticamente già fatta. Che ne pensa di questa cosa che ha detto Marino? 4.500 euro sono pochi per governare Roma? Ma guardi, io, come diceva lei prima, non è il tempo questo delle rivendicazioni salariali, però posso dirle che qua in Friuli Venezia Giulia abbiamo come decisione, oltre all'abolizione dei vitalizi, abbiamo parametrato l'indennità dei consiglieri regionali a quella dei sindaci. Sul supposto... Perché prima i consiglieri, guadagnavano di più. Guardi, le faccio i conti immediatamente. Sì. Un consigliere regionale percepiva 10.290 euro lordi di indennità e adesso è parametrata a 6.300 euro lordi, che è quella del sindaco, capoluogo di regione. Perché c'è una legge nazionale, no? che in base all'ampiezza delle città parametra lo stipendio dei sindaci. Noi l'abbiamo parametrato al sindaco di Trieste, cioè del capoluogo regionale. Quindi attualmente un consigliere guadagna come il sindaco del capoluogo. Sì, poi ci sono i rimborsi, ma insomma comunque diciamo che la base dell'indennità è la stessa del sindaco del capoluogo della regione. Dopodiché io, sì, anche da presidente della regione, mi sento di dire che capisco anche quello che dice il sindaco di Roma, nel senso che il sindaco di Roma prende meno di quanto prende un consigliere regionale di opposizione del Friuli Venezia Giulia, e il consigliere regionale di opposizione del Friuli Venezia Giulia, sommando l'indennità che dicevo prima, ridotta a rimborsi, sì, per lo svolgimento del mandato, prende di più del sindaco di Roma, nonostante le responsabilità siano fortemente diverse. Ma non perché a Roma certamente denigrare il compito del consigliere regionale, no, però insomma, obiettivamente che le responsabilità che competono ai sindaci sono notevoli, insomma, importanti. Quindi torna d'attualità quello che ha detto Matteo Renzi tante volte: teniamo fermi gli stipendi dei sindaci, che vanno bene così, cioè non abbassiamoli ulteriormente, perché sennò davvero amministrare una città per 2.000 euro al mese non so chi andrebbe a farlo, però abbassiamo quelle dei parlamentari. Sono perfettamente d'accordo, come le dicevo l'abbiamo già fatto con i consiglieri, sì, regionali, proprio sullo stesso presupposto. Però come mai, Serracchiani, invece da parte del Movimento 5 Stelle, se non siamo male informati nel dibattito in Friuli Venezia Giulia, lei si è beccata delle critiche perché dice che avete illuso gli elettori con questa operazione che è solo d'immagine? Guardi, il Movimento 5 Stelle ha imparato presto come funziona la comunicazione mediatica. Parlano i numeri: abbiamo ridotto di oltre il 40% l'indennità, del 15% l'indennità di funzione, abbiamo abolito i vitalizi non dalla prossima legislatura ma da questa, cioè già da questa, e in più abbiamo ridotto del 90% il rimborso ai gruppi consiliari. Mi pare che parlino i fatti, poi si può fare forse c'è la questione, quanto si vuole. Forse c'è quella questione sugli assessori, sui rimborsi per gli assessori esterni, che è cresciuta un po' quella. No, guardi, non è cresciuta affatto, me ne dispiace, è passata questa comunicazione. Ho ritenuto però, e lo ribadisco anche perché è alla base, sì, del discorso con cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, che a mio avviso assessori, presidenti, sindaci hanno una responsabilità diversa rispetto ai consiglieri. Lei consideri che in precedenza il consigliere regionale di opposizione, che veniva dalle città più lontane, in Friuli Venezia Giulia, prendeva più o meno come il presidente della regione. Non lo trovo onestamente, viste le responsabilità penali, civili e amministrative, che è il presidente, corretto. Quindi abbiamo ritenuto di mantenere una differenza: gli assessori prendono un po' di più dei consiglieri e il presidente prende un po' di più, esattamente come, pur con tutte le riduzioni che dicevo, quindi comunque riducendo le indennità precedenti. Che vuole? La strumentalizzazione non conosce, è a casa di tutti i partiti e anche di alcune forze politiche come il Movimento 5 Stelle. Senta, parliamo un po' anche però della politica politica nazionale. Sono giorni in cui in queste ore insomma, c'è la, come dire, la corsa a chi rimane senza il cerino in mano, no? Sembra quasi tra il suo partito e il PDL, no? È colpa vostra se cade il governo. Qualcuno come D'Alema dice che non cadrà nulla e che si va avanti tranquillamente. Il suo partito, il PD, deve andare avanti sulla linea del voto sull'incandidabilità di Berlusconi nonostante tutto. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, io non credo che ci sia neanche da discuterne, insomma, stiamo applicando una legge e stiamo discutendo solo di quello. Per cui il Partito Democratico ha preso una posizione chiara, netta, direi anche coesa, proprio non se ne discute, insomma, non mi pare che sia un argomento di cui discutere. No, e magari è sulla coesione del PD a volte che ci può essere qualche dubbio, no, potrebbe guardi, essere una facile battuta, però. No, ma ha ragione, purtroppo non è una facile battuta, nel senso che abbiamo dimostrato più volte di avere pensieri anche plurali, come dice qualcuno. I famosi però... 101 franchi tiratori che potrebbero, sì. Secondo lei questa possibilità esiste? Ma io, guardi, sulla vicenda Berlusconi, come ho già detto una volta, mi sembrerebbe fantascienza, semplicemente perché è un contesto tale, è una vicenda tale che proprio non mi pare possibile trattarla diversamente, se non, ripeto, applicando la legge. Dopodiché, sì. Guardi, siccome io ovviamente parlo pur non sedendo su quei banchi e quindi non essendo io chiamata al voto, ma... una decisione diversa da parte dei parlamentari, sì, del Partito Democratico non sarebbe assolutamente compresa, non sarebbe assolutamente capita, metterebbe a rischio la stessa ragione di esistenza del Partito Democratico, che certamente non nasce e muore in virtù delle vicende di Berlusconi, ma sicuramente, insomma, come dire, creerebbe al proprio interno crisi di identità tali. Cioè, se per caso, io traduco, se per caso ci fosse un voto, sarà un voto probabilmente a scrutinio segreto, ma se dovesse venire fuori che ci sono dei franchi tiratori nel PD, qualcuno nel Partito Democratico si sfilerebbe. Lei, per esempio. Ma guardi, io le dico con chiarezza questo. Sì. Non ho compreso allora i 101 franchi tiratori e mi sarebbe sempre piaciuto e continuo a pensare che sarebbe opportuno sempre palesarsi quando si prendono decisioni anche diverse rispetto a quelle del proprio gruppo parlamentare o del proprio partito, perché ci sta che uno la pensi diversamente, ma deve metterci la faccia. Se in questa vicenda dovesse accadere, e lo escludo categoricamente, ripeto, è per me fantascienza, che qualcuno ritenesse di dover votare in modo diverso, allora scrutinio segreto si palesi, se ne assume la responsabilità, ma per quanto mi riguarda il Partito Democratico è un'altra cosa. E quel tipo di scelta diversa rispetto ad una vicenda dove si rischia di barattare la legalità con gli interessi sempre della solita stessa persona è per me un fatto assolutamente inaccettabile e intollerabile. Lo porrei come una questione di stessa, diciamo così, esistenza del. Ecco, sì, questo è chiaro. Ma lei ha fiducia in Letta da questo punto di vista in queste ore? Rispetto alla tenuta del, sì, governo, le dice. No, rispetto alla tenuta del voto al Senato. Ma guardi, sono stati chiari i senatori del Partito Democratico, è stato chiaro il segretario nazionale, il Presidente del Consiglio mi pare che non abbia dato spazi di alcun tipo. Io, attenendomi anche a quelle che sono le dichiarazioni del capogruppo, non ho nessun dubbio, insomma. Dopodiché, come lei dice, qualcuno definisce anche franco tiratore nella vita ogni tanto, non appartiene in questo momento al Partito Democratico. Senta, parliamo anche di un altro argomento, perché lei è tra quelli che dopo questa ondata di sbarchi, dopo quello che è successo con gli immigrati anche nel CIE di Gradisca dalle sue parti, ha detto che in effetti bisogna rivedere la legge Bossi-Fini. Perché? Ma guardi, bisogna rivederla per le applicazioni pratiche che ha, non funziona. Al di là della questione legata al reato di clandestinità, dove insomma a me colpisce anche da cittadina italiana che una persona venga colpita per quello che è e non per quello che fa, e già lo trovo, diciamo, strano. L'applicazione pratica cosa comporta? Le faccio il caso pratico del CIA di Gradisca. 65 persone presenti, l'85% dei quali hanno condanne molto gravi al loro carico, provengono direttamente dal carcere con già un ordine di espulsione in mano. Allora mi chiedo, perché passano per il CIE dove invece ci sono quella quota minoritaria di persone che hanno avuto appunto la scadenza del permesso di soggiorno, hanno perso il posto di lavoro, insomma sono in condizioni profondamente diverse. Il CIE non è nato per quello, continua ma a non cos'è funzionare. Che non funziona? È colpa dei magistrati? È colpa delle forze dell'ordine? Perché? È colpa del fatto che è una legge inapplicata, è inapplicabile, perché non si sono trovati gli strumenti per convincere le forze diplomatiche a scambiarsi informazioni sulle identificazioni, perché non si è creato un patrimonio comune, magari anche europeo, che ci permetta di avere delle regole comuni all'interno di queste strutture, ma soprattutto anche per quanto riguarda i vari, diciamo, i vari momenti nei quali l'immigrato arriva sulle nostre coste o comunque arriva sul nostro territorio, senza contare che non abbiamo neppure ancora una normativa unitaria comune sui richiedenti asilo. Allora mi pongo il problema se questa Bossi-Fini, che è nata ormai diversi anni fa in contesti economici e anche culturali e sociali diversi, non debba essere profondamente modificata e se non debba essere profondamente riviste delle strutture che sono nate per la temporanea identificazione di alcune persone che adesso giacciono là dentro per mesi, mesi e mesi, oltre il termine previsto dalla scadenza di legge, per fare cosa? Un'identificazione che nella migliore delle ipotesi comporta che questi escono dopo diversi mesi di detenzione. Mi pare proprio che non ci siamo. Senta, un paio di domande un po' laterali. C'è un ascoltatore al 349-238-6666, il nostro SMS, che chiede, però io penso che chiede se si è dimessa da consigliere europeo, cioè da parlamentare europeo, ha dato le dimissioni. Beh, penso il giorno stesso della proclamazione, il giorno dopo ero già dimessa. Io le ho fatta perché ce l'avevano girata così. Invece c'è una cosa curiosa di oggi pomeriggio. Gasparri ha twittato che ci sarebbe Fassino sullo yacht di Bazzoli davanti a Monte Carlo. Io la riferisco così com'è. Cioè, non lo so se Gasparri ci ha visto male, ma se fosse vero, c'è qualcosa di strano se Fassino e il suo partito, il sindaco di Torino, sta sullo yacht con il banchiere Bazzoli a Monte Carlo? Lo chiede al sindaco di Torino, credo che non ci sia nulla di strano quando si fanno le cose alla luce del sole. Se stava assolutamente alla luce del sole non ci sono, credo, problemi di quel tipo. Se poi lo chiede a me, io sono in questo momento alla festa democratica del PD di Osoppo e sto per essere intervistato da un giornalista. Ah, vabbè. Come vedete, passo le mie esperienze. Tra l'altro devo dire che Fassino non è neanche che si presti molto all'ideale dell'uomo da barca a vela, ecco, da questo punto di vista. No, onestamente però... no, e conoscendolo è una persona di grande sobrietà e anche di grandi capacità. Magari questa qua è una boiata pazzesca, cioè l'abbiamo detta perché perché Gasparri l'ha detto. No, adesso avremmo creato magari le condizioni di allarme perché Gasparri non si sta preoccupando di Berlusconi come dovrebbe fare 24 ore su 24. Come vorrebbe che facesse la Santanchè, tra l'altro, visto che hanno polemizzato tra di loro. Questo potrebbe essere indice di espulsione dal partito, chissà. Senta, visto che ha citato la festa del Partito Democratico, si ricorda quella polemica che c'è stata sulla partecipazione visto che lei è anche un po' un'icona dei giovani del PD, del cantante Moreno, uscito da Amici di Maria De Filippi, che è andato a chiudere la festa del PD di Genova. Qualcosa di cui scandalizzarsi, è stato detto da Fossati a Guccini, De Gregori fino a Moreno, cioè la decadenza culturale del PD. Guardi, adesso non parlerei di decadenza culturale, ma parlo della necessità, se come spesso ci diciamo che vogliamo tornare a parlare ai giovani, i giovani parlano con quella musica e con quelle persone, possiamo far finta che non esistano, ma esistono. Se lo fa una forza politica, credo che sia ancora più interessante indice di apertura a tutte le generazioni. Però lei personalmente ascolta forse più Fossati che Moreno. Guarda, io prima di questa non sapevo neanche chi fosse Moreno, quindi... Adesso l'ho ascoltato? Onestamente no, quindi come vede, diciamo, mi reputo abbastanza vicina dal Partito Democratico da partecipare. Va bene, grazie mille, buona serata, Deborah Serracchiani. Grazie a lei, grazie, arrivederci. 800240024 Gabardini, sì, signore, sono presente. Un po' di appunti per commentare questa intervista, facciamo dopo? Assolutamente. Dopo le borse? Sì. Borse. And now, the good news! Tra le corsie di alcuni ospedali torinesi si possono incontrare i volontari per la lettura, uomini e donne che impiegano il loro tempo libero alleviando la noia dei pazienti. Si aggirano tra i letti leggendo ad alta voce estratti di libri e di racconti, volumi ad alto volume. Si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, 800 24 00 24. Speravo di aver creato un casotto con questa storia di Fassino, perché cioè, tu l'hai letta tu, cioè, certo, l'hai vista con i tuoi occhi questa qua di Gaspare. Quindi non so se Gaspare è abituato a spararle così su Twitter, oppure se è attendibile. Comunque ne ha già commentata un'altra, che è: Fassino alle primarie a Torino fu appoggiato dall'onorevole Luca, mette un accento sulla A, accusato di aver mobilitato ambienti dell'Andrangheta, forse a sua insaputa. Quindi direi che Gaspari, non so, ha delle informazioni personalissime. Sì. Andiamo con gli ascoltatori. Abbiamo Giuseppe che ci chiama da Roma. Buonasera Giuseppe, prego. Buonasera. Eccoci qua. Buonasera. Posso permettermi una battuta su Fassino? Sì, anche due. Beh, secondo me sulla barca di Bazzoli, al massimo, siccome è una barca a vela, al massimo farà il fiocco, neanche la randa. O il palo, qualcuno mi suggerisce dalla redazione. Il boma, esatto. No, ma non ho chiamato... Povero Fassino, sempre le stesse battute. Sì. Era bello anche se aveva chiamato solo per questo, mi sembrava molto divertente. Già questo entra nei preferiti, Giuseppe. Prego. Grazie. Ho parlato perché ho ascoltato che Patroni Griffi ha annunciato un provvedimento sulle auto blu. Io ho 58 anni e ascolto di auto blu da circa 50 anni, diciamo così. Sarebbe un intervento abbastanza radicale. Prima ha parlato la dottoressa Serracchiani. Sì. Che mi viene in mente che la dottoressa Serracchiani sicuramente ha un posto che merita un'auto blu per servizio, veramente per servizio. Bene, io sono convinto che se lei diventasse generale, per esempio, le potrebbero tranquillamente dire: senta, il suo predecessore aveva questa automobile, questa Lancia Gamma, per esempio, e il valore residuo di libro è 25.000 euro. Vendi tu e l'autista te lo lasciamo e la paga la pubblica amministrazione, però io mi sto perdendo, Giuseppe, mi sto perdendo, la paghi a rate e ma la cosa paghi sta allo dicendo Stato. Giuseppe, dove vuole arrivare? Radicalmente tolto ogni problema sulle auto blu. Se se la pagano loro è risolto il problema, questo che sta dicendo. Sì, ma un momentino, ci potrebbe essere il generale che dice: vabbè, no, io non la voglio pagare. Io la voglio rossa. No, non sei più generale. Certo, la Serracchiani potrebbero... Non ho capito poi perché la Serracchiani l'ha voluta infilare in mezzo al discorso delle auto blu, non ho capito... Non ho capito il collegamento tra le due cose. Vabbè, Giuseppe. Fra chi? Fra Serracchiani e le auto blu. No, vabbè, ma soltanto perché ho parlato. È una persona che rispetto moltissimo. No, ma al di là del rispetto, cioè, non ho proprio capito. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Giuseppe? No, siamo a posto così. Ha fatto la battuta, il coso dell'auto blu, a posto. Grazie, buona serata. Alessandro da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Mi scusi innanzitutto se farò un intervento modello popurri in cui butterò dentro un po' di tutto, ma visto il momento i soggetti sono veramente tanti di cui parlare. Cominciamo. Allora, la prima cosa era ovviamente su quello che ha appena detto, una delle cose che ha detto la Serracchiani, che bisogna vedere anche quali sono le responsabilità e quindi commisurare alla responsabilità lo stipendio. In realtà poi io mi chiedo, nel momento in cui queste persone fanno qualcosa di sbagliato, abbiamo visto i vari problemi che ci sono stati con i soldi che se ne andavano un po' nelle tasche di chi pareva loro, e cosa succede in quel momento? Nel senso che secondo me ho la vaga impressione che sì, responsabilità finché si tratta tutto in via teorica, poi quando invece c'è il problema queste persone si defilano dalle loro responsabilità. Che poi non è niente diverso a quello che succede nel privato, nelle aziende oggigiorno, però insomma dall'amministrazione pubblica. Beh, ma cosa c'entra questo però con gli stipendi? Dopo, no, perché lei diceva che lo stipendio deve essere commisurato alle responsabilità. Al rischio. Ah, vabbè, sì. Esatto, al rischio e responsabilità. Sì, ma non è il rischio, responsabilità corrisponde anche poi a ore di lavoro, non è semplicemente il rischio, non è che uno deve guadagnare tanti soldi perché rischia. No, però se vede un attimino, i grandi dirigenti sono dei responsabili e di conseguenza prendono tanti soldi perché sono responsabili e si assumono anche un rischio di impresa, certo. Se vogliamo. Questo per quanto riguarda il pubblico, queste persone prendono più soldi perché hanno maggiore rischio di impresa che è quella pubblica. Certo. Avanti, visto che ci ha detto, che ci ha anticipato che deve parlare di tantissime cose, secondo me è meglio che il suo ogni cosa sia un pochino più stringato, un se po' si più può spumeggiante dire. Anche, esatto, dai. Su. Sarà fatto. Poi sarà se fatto. Ci racconta con una barzelletta siamo a posto, Alessandro. Vabbè, poi abbiamo la questione del Monopoli, ovviamente, che non può, non ci si può. Ma non è obbligato a parlare di tutto, che... Abbiamo la... Ah, sì. Vabbè, però per una volta che riesco a parlarvi, certo, ne approfitto. Prego, prego, ne approfitti. Allora, sul Monopoli, vabbè, cosa doveva dire? Su Monopoli magari pensassero di fare qualcosa di diverso invece di star lì a giocare a Monopoli. Sì, infatti adesso si occuperanno anche del rubamazzo, molto probabilmente, che siccome è diseducativo anche solo già dal nome, si chiamerà Prestamazzo, probabilmente. Non dirlo, Gabaldini, perché se ti sente Bobba e gli altri parlamentari del PD fanno una lettera, non so a chi. E anche Machiavelli per quanto riguarda la politica, Va bene, grazie Alessandro, ci salutiamo qua. Andiamo con Gianfranco che ci chiama dalla provincia di Bologna. Aveva un sacco di cose, magari richiama. Magari una ce la dice Gianfranco, una di queste cose qua. Va bene. Eccoci. Buonasera. Allora, io dico, si fanno tante parole, ma se noi vogliamo mettere a posto l'Italia, chi è che la deve mettere a posto? I nostri deputati, i senatori? Abbiamo un Parlamento europeo da mantenere, abbiamo senatori, deputati, sindaci, amministrazioni pubbliche, tutti buoni stipendi e buonissime pensioni, e si lamentano anche. Sta parlando di Marino, giusto? Io dico, sì? Sì. Allora io dico, ma guarda un po', è come dica, uno, dica. Noi dobbiamo aspettare loro che facciano le riforme, ma non le faranno mai. È come uno darsi una zappa sui piedi. Può capitare che se la dà, ma se la dà per sbaglio. Grazie, con questa immagine salutiamo Gianfranco. Andiamo a Paolo che ci chiama dalla provincia di Pavia. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora, innanzitutto saluto tutti e vi ringrazio per il nuovo tono della trasmissione che francamente mi piace molto di più della cosa. Ma noi ringraziamo. E la ringrazio perché è una compagnia quando uno torna a casa dal lavoro, parlare con persone che non insultano quelli che rispondono al telefono. È molto educato e molto diverso. Senta, io ho una piccola riflessione mia che riguarda questa famosa accanimento nei confronti di Berlusconi. Mi scusi se magari il termine è stato fatto, è un discorso fatto tante volte. Beh, da 20 anni più o meno che lo facciamo. Però forse dico una cosa magari leggermente diversa. Volevo dire, secondo me è iniziato molto prima del 92, quando c'è stato il lodo Mondadori, e praticamente sono stati pagati dai giudici, questo oramai lo sanno tutti, e quello che io vedo poi è un accanimento, sì, ma per fargli pagare quello che non è stato riuscito a fargli pagare allora. Non so se riesco a rendere l'idea. Ma guardi, sulla questione Mondadori c'è la... il rimborso che Mediaset deve a De Benedetti, c'è stato il lodo, no? Successivo, per cui cioè non il lodo, insomma, questa compensazione, per cui non è vero che non è stato riconosciuta. Dopodiché poi non ho capito anche in questo caso bene cosa volesse rendere l'idea all'ascoltatore. Chissà se qualche altro ascoltatore ci aiuta a decriptare questi primi interventi. Andiamo, dove andiamo? Gianfranco che ci chiama da Pescara, buonasera. Sì, buonasera, senta. Non vorrei essere ripetitivo, però sempre per quanto riguarda Berlusconi, cioè è una cosa che io non riesco a capire, mi aiuti a capirla lei. Sì. È mai possibile che tra i tanti evasori nessuno che io sappia sono stati condannati o comunque hanno avuto la pena accessoria della interdizione? Berlusconi sì. Attenzione, guarda, questa cosa l'abbiamo già detta, che detto un sacco di volte. Appunto, perché non è evasione, ma è frode. Frode, esatto. Fiscale, diverso. Perché evasione fiscale non si va in galera. Sì. No, si va in galera. Non perché si va in galera per l'evasione. Perché qualcuno, per esempio, ha citato Lara Comi qualche giorno fa, ha fatto il paragone con Valentino Rossi, che ha un patteggiato con l'Agenzia delle Entrate. Però quella era evasione fiscale. La frode è diversa, è più grave secondo il nostro ordinamento. Quindi è una cosa diversa. Trattava di elusione, non frode. Frode. Posso sbagliarmi? Sì, si sbaglia. In questo caso qui ma sì. Ma comunque ascolti, un'altra cosa, poi finisco. Sì. Cioè io non capisco come mai Berlusconi è diventato il delinquente da punire da entrato in politica. Prima non l'hanno mai cercato i magistrati. Non mi risulta che prima sia stato perseguitato, perseguito per altri reati, vuol dire. Cioè la sinistra non sa come far di liberarsi di un proprio avversario, lo fa eliminare dalla magistratura, com'è sta storia? Non lo so com'è sta storia, questo è il punto di vista suo e di tanti altri elettori, per esempio di Berlusconi. Altri la pensano diversamente, che dobbiamo fare? Andiamo, dove andiamo? A Muzio, che ci chiama dalla provincia di Frosinone. Muzio. Buonasera. Mi sembrerà incredibile, ma io non parlerò né di sentenze né di personaggi protagonisti di sentenze. È incredibile, ma è vero. Desidero dirvi soltanto una cosa. Ieri io ero in macchina, non potevo chiamarvi. Avete parlato del famoso fondo di solidarietà che è allo studio, il prelievo... Sì, tra le pensioni d'oro e le pensioni, diciamo, più basse, sì. Ci siamo? È allo studio, sì, questa cosa qua. Perfetto, lo so perfettamente una cosa. Desidero soltanto dirvi una cosa. Uno di voi due, non ricordo chi, ha detto, ma certo che è giusto, è super giusto. Allora, io ho detto questo. Guardi, io ieri non c'ero, quindi... La prego, mi faccia finire, sarò... Prego, vada. Benissimo. No, questo fondo di solidarietà, cioè il blocco... della perequazione, cioè della non ce la fa Muzio, forza, cosa vuole dire? Va bene, comunque l'Istat, per capirci, non mi viene la parola, parte dalle pensioni di 1.405 euro lordi, altro che pensioni d'oro, e loro hanno intenzione per tutta la vita. Ma loro chi? Ma chi gliel'ha detto? Guardi che le pensioni di cui si parla sono pensioni, la media è 11.000 euro circa al mese lordo, per cui non è quello che dice. Male a questo punto. Eh? Siete informati male. No, è informato male lei, Muzio. Parte da 1.405 euro lordi al mese. Ci informeremo, grazie Muzio, buona serata. Adesso abbiamo una pausa per il traffico, torniamo tra un attimo. And now the good news. Alla Garbatella, uno dei quartieri popolari di Roma, è tornato di moda il forno comunitario. Tutti sono liberi di portare la pasta preparata a casa e di utilizzarlo per fare il pane. Il forno è stato costruito e finanziato collettivamente. Così oggi, chi ha i denti, ha anche il pane. Si può fare l'attualità, anche d'estate. Adesso parliamo un attimo di università, perché secondo la classifica Anvur pubblicata qualche tempo fa, tra le università medie, l'ultima in classifica si piazza l'Università di Urbino Carlo Bo, quanto a una valutazione complessiva in base a certi criteri, a certi indici di qualità dell'università, tanto che qualcuno ha scritto sui giornali, Giavazzi, ma anche il governatore dell'Abruzzo Chiodi, chiudiamo le università ultime in classifica, che sono Messina tra le grandi, Urbino tra le medie, dicevamo, e un'università di Roma per quanto riguarda quelle piccole. Noi abbiamo convocato il rettore dell'Università di Urbino Carlo Bo, Stefano Pivato, buonasera. Buonasera a voi. Vi vogliono chiudere? Tra l'altro non ho capito bene perché il governatore Chiodi dell'Abruzzo ce l'ha in particolare. Non secondo la classifica dell'Anvur, ma secondo una lettura errata che delle classifiche Anvur ha fatto il professor Giavazzi. Ecco, sì. Intanto Urbino non chiude, volevo subito rassicurare, ammesso che il professor Giavazzi... Gli universitari urbinati, quanti iscritti fate? 15.000. Non sono tantissime, è un'università piccolina. Ma siete un'università media voi con 15.000 iscritti? Sì, un'università media. Quindi sono università piccole di ancora meno iscritti? Sì, certamente, anche con 2-3.000 iscritti, 1.000 iscritti. Che però, scusi, ma queste sì, sembrano un po'... Non sono un po' traballanti, un'università con 1.000 iscritti, cosa può dare sul piano internazionale? Io per esempio ho qua una classifica, non voglio aggredirla subito così, però c'è la classifica delle università mondiali, nelle quali per esempio la Bocconi è al 17° posto, c'è anche Bologna, Padova, Siena per quanto riguarda l'economia, ma come fa un'università con 1.000 iscritti a competere a livello anche internazionale? Ora non parlo di Urbino che ne ha 15.000, però... Beh, guardi, si può fare, Intanto prende in considerazione questo dato che in Italia abbiamo 67 università statali e 29 università non statali. Mm. Questo significa che l'Italia è fra le nazioni con un numero basso di università per abitante. Tenga presente che l'Italia è quart'ultima fra i paesi europei per numero di docenti universitari riportati agli studenti ed è al 34esimo posto in Europa su 36 per popolazione universitaria. Cioè, quindi le dice, si potrebbe fare di più, più università, più studenti, più professori, più tutto. E non tagliare, ma soprattutto fare delle leggere delle statistiche attendibili, perché avrà visto che vari studiosi di statistica hanno contestato questa puntata appunto di Giavazzi. Addirittura in alcune classifiche noi precediamo la Bocconi. Ma per esempio io avevo letto, a onor del vero, una classifica del Sole 24 Ore, non so più di quanto tempo fa, una elaborazione Sole 24 Ore su dati sempre gli stessi, che vi metteva più o meno a metà classifica. Sì, certo. Ma appunto, quindi sono queste classifiche che alla fine lasciano un po' il tempo che trovano? Dipende dalla lettura che se ne fa, perché questo gruppo di statistici di Pavia proprio ieri che cosa ha fatto vedere? Ha fatto vedere che Urbino precede in più di un parametro la Bocconi. Quindi, ma quali sono i parametri, rettore? Ci spieghi un attimo. Ecco, intanto l'Ambur prende in esame solo la ricerca. L'università si classifica per la ricerca, ma anche per la didattica, anche per i servizi. Le classifiche del Sole 24 Ore o ad esempio quelle del Censis che ci posizionano, che ci mettono in ottima posizione, sono più complete. Però, però sulla ricerca siete un po' deboli allora? No, è la lettura che il professor Giavazzi fa di questi dati che ci dà questa debolezza. Noi, scusi, ma non siete, settori, non siete al 32esimo posto tra le università medie? Nella classifica dell'Ambur? Sì. Complessivamente sì, però in alcuni settori, ad esempio economico-statistico, siamo al primo posto, o il settore biologico. Però alla fine conta anche la media, no? Scusi, se no... No, certamente, però bisogna fare una media ponderata, insomma, sono certamente più attendibili le classifiche del Censis che ci posizionano a metà. Cioè voi dite che voi avete delle eccellenze, quali sono le eccellenze dell'Università di Urbino, per esempio, ce ne dica un paio? Beh, il settore economico, statistico, per esempio, o il settore biologico. Il settore economico statistico è primo in Italia, la Bocconi qui è nona. Credo si sia trattato di un atto quantomeno di concorrenza sleale da parte del professor Giavazzi. Cioè voi siete davanti alla Bocconi, certo, per quanto riguarda l'economia? Se noi prendiamo... Però siccome Giavazzi è bocconiano, le dicevi, come ritorsione sul Corriere ha voluto fare un articolo per penalizzarvi. Beh, l'ha detto lei. No, l'ha detto lei, lo ha adombrato lei, io l'ho detto, però lei l'aveva... Se vuole le do anche un altro dato, perché la specifica Ambur certifica ad esempio la percentuale dei fannulloni, cioè di quei docenti che nel periodo considerato dall'Ambur, cioè 2004-2010, non hanno prodotto alcun risultato. Bene, noi siamo davanti alla Bocconi anche in questo, quindi le classifiche... Cioè avete meno fannulloni? Esattamente. Avete forse meno docenti e quindi non lo so, dico. Esattamente. No, no, ne abbiamo di più, ma percentualmente abbiamo meno fannulloni, questo lo dicono le ricerche. Ma quindi, cioè, queste, io non ho capito, queste classifiche poi alla fine sono quelle in base alle quali si ridistribuisce anche una parte del fondo ordinario, quello per le università? Il cosiddetto premiale, certamente, una percentuale. Quindi comunque voi andrete, diciamo, impoverendovi, perché avrete meno fondi da questo punto di vista. Guardate, no, io qui vorrei essere chiaro che le classifiche che ha distribuito il quotidiano del professor Giavazzi non sono le classifiche del Ministero, è qui che sta l'inghippo, sono diverse le classifiche del Ministero e compariranno rettificate, lo dicono molto bene persone che sono di sopra delle parti, come appunto questo gruppo di statistici di Pavia. Noi non siamo messi così male, sono le fonti che ha utilizzato il professor Giavazzi che non sono quelle giuste, mi permetta. Quindi un'operazione completamente di verità falsata da parte di Giavazzi, che è in concorrenza con la Bocconi, col vostro Ateneo. Non penso proprio che Giavazzi pensasse di fare concorrenza, però diciamo io l'ho definita è la conclusione comunque di quello che dice lei, cioè ha stravolto la realtà e ha barato addirittura sulle classifiche il Corriere. L'ho definita un'operazione quantomeno superficiale, non io, ma chi è intervenuto nel dibattito, nel blog del Corriere della Sera. No, io credo che però il fatto che nella media voi siate all'ultimo posto, questo sia incontestabile, questo è quello che ho capito io e mi sembra che lei l'abbia confermato. No, assolutamente. Nella media, Rettore? Nella media di quelle classifiche che non sono quelle giuste, torno a ripetere. Vabbè, io però a questo punto mi arrendo perché non so più come... cioè, lei non ha convinto me, io non ho convinto lei, ma io non è che dovevo convincerla. L'importante era chiarire la vostra posizione agli ascoltatori e toccare questo argomento delle classifiche. Tra l'altro, forse su questo possiamo essere d'accordo, il ministro Carrozza ha detto che le classifiche ci penalizzano a livello internazionale. Beh, questo sì, certamente, però è anche vero, questo non manca mai di sottolineare il ministro Carrozza, che le università italiane sono quelle meno finanziate rispetto agli altri contesti europei. Tenga presente che il budget per tutte le università italiane, insomma il budget... Dobbiamo chiudere. Grazie al rettore Pivato di Urbino, buona serata, grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24 è ancora più oscura la vicenda dopo questa intervista. Tu c'hai capito qualcosa, Gabardini? No, però mi sembra, è come sempre il discorso cioè delle gli ultimi si arrabbiano perché sì, però lui dice la classifica è sbagliata però lui dice, e poi ha tirato fuori altre 15 classifiche dove in realtà nulla. Era avanti lui sulla Bocconi. Giornale Radio, a tra poco. And now the good news. Teleiato è una piccola TV antimafia di Partinico. La riassegnazione delle frequenze l'aveva condannata alla chiusura, ma grazie a una vera e propria sollevazione popolare, sostenuta anche dalla politica, oggi può continuare a trasmettere. A Teleiato si definiscono la TV più piccola del mondo, ma sono dei grandi. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati, eccoci qua, 800 24 00 24, 18, 20 e 30, l'orario di Si può fare con i vostri interventi, le buone notizie, la bella storia con cui ci lasciamo alle 20 e 15. Se volete interagire con noi, l'account su Twitter del programma è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi e poi in studio anche Carlo Gabardini. E buonasera. Quindi buonasera. Andiamo con il TG3. Chiocciola Carlo Gabardini. Eccolo, TG3. Berlusconi chiuso nella villa di Arcore prepara il vertice di domani con i fedelissimi. In campo tutte le opzioni, compresa la crisi di governo. Per aggirare la sentenza spunta anche l'ipotesi amnistia, di cui potrebbe avvalersi anche il Cavaliere. Il PD, un provvedimento fatto apposta per lui, un'indecenza. Letta prova a tenere il governo al riparo, puntando ad approvare presto provvedimenti popolari come IVA e IMU. Chi rompe se ne assume la responsabilità. Rinviato il Consiglio dei Ministri sui tagli alla pubblica amministrazione e fondi per lo sviluppo. Scintille sulla tassa per la casa tra Del Rio e Brunetta. Due esplosioni scuotono Tripoli, la seconda città del Libano, nel giorno della preghiera, vicino a due moschee. Oltre 40 vittime e centinaia i feriti. Sulla Siria è l'ora delle scelte, dice Obama. La Francia evoca l'uso della forza, il mondo vuole l'inchiesta sulle armi chimiche. 1 milione per profughi bambini. Domani torna il campionato e torna l'allarme razzismo. Tosi, sindaco di Verona, bacchetta Balotelli, attento a non provocare, poi smorza i toni. Lazio con magliette anticori. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. Visto che diciamo molti dei problemi legati alla crisi sono dovuti appunto anche a una mentalità che di fatto ha consentito, in assenza di regole, di creare quello che abbiamo visto in questi anni, credo che intervenire anche su una questione che ha a che fare poi con la mentalità corrente sia tutt'altro che insignificante. Non gioco più. Cemento, tu parli Questi era Luigi Bobba, uno dei parlamentari del PD, che ha scritto una lettera all'ambasciatore degli Stati Uniti d'America per dirgli: non gioco più a Monopoli, nessuno deve giocare più a Monopoli, perché il nuovo Monopoli, come avete sentito, si basa solo su pacchetti azionari, su speculazioni, come se quello di prima fosse invece un incitamento alle buone maniere. Era anche quello basato sulla compravendita di case, sulla spericolatezza finanziaria, ma è un gioco, e questo è il punto. C'è qualche ascoltatore che 800240024 crede che sia giusto, utile, che un parlamentare scriva una lettera all'ambasciatore degli Stati Uniti d'America per chiedergli di non diffondere il Monopoli, anziché forse fare una legge, una proposta di legge per contrastare gli eccessi della speculazione finanziaria? Punto di domanda. Sentiamo ancora un Bobba. Avete avuto, come dire, un feedback dall'ambasciatore? Non credo, adesso io sono qua, non lo so, ma non credo proprio. L'ambasciatore tace, non se lo fila questi che hanno scritto la lettera. Vabbè, e questa era una questione per giocare. Non gioco più, Mina, 1974, un'altra scelta musicale notevole della nostra redazione, Riccardo Buccero e Riccardo Poli, che non finiremo mai di ringraziare abbastanza per queste cose qua. Cosa sentiamo? Sentiamo anche il gioco delle parti tra PD e PDL, che ci sta forse anche un po' stufando, ma è quello che c'è. Il gioco del cerino, chi rimarrà col cerino in mano se dovesse esserci una rottura di questa alleanza per colpa della ben nota sentenza Mediaset. Sentiamo Lara Comi. Ma perché vi siete alleati con noi per creare questo governo? Cioè, perché a questo punto votate la decadenza di Berlusconi come senatore? Per noi è il leader del nostro partito e di conseguenza ogni esponente rappresenta Berlusconi, quindi avrete ministri all'interno del governo e chiedete di avere ancora fiducia a Io prendo. Onorevole De Micheli del PD, via. Quindi il cerino, come lei ha fatto prima una battuta, non ce l'abbiamo in mano noi. Sono decisioni di riorganizzazione politica che il PDL deve fare al suo interno rispetto a delle scelte che deve prendere, anche perché comunque nella sua nuova condizione Berlusconi potrà continuare a dare indicazioni al suo partito su cosa fare, su come muoversi. Ma guardate, voi parlate di Silvio Berlusconi come se Silvio Berlusconi pensasse a se stesso. Sono 20 anni che Silvio Berlusconi non pensa a se stesso. Altrimenti non si sarebbe messo in politica, non avrebbe fatto quello che ha fatto. Silvio Berlusconi sta pensando agli italiani, sta pensando di un uomo che ama la propria patria. Silvio Berlusconi sta pensando agli italiani, sono gli italiani, si vede che pensano a lui molto, perché non si parla d'altro. A parte, non so se ci sono notizie su Fassino in barca a vela sulla barca di Bazzoli, secondo Gaspari. Io questa cosa la trovo curiosa, perché non seguo molto Gaspari su Twitter, però mi sembra che sia un po' originale questa cosa, cioè un po' strano. Se ne è presa moltissimo con Fassino. Poi ha detto che De Magistris si sta per dimettere. E ha detto De Magistris verso le dimissioni, ma il fratello rimarrà. Con un divertente gioco, perché non sappiamo quale sia il fratello di quale, diciamo. Nel senso che non sappiamo se è il sindaco che si dimette o se è il suo fratello che si dimette. Dal Forum delle Culture. Esattamente. E poi molto su Fassino. Fassino in vacanza sulla barca, sullo yacht. Secondo me qualche TG stasera ci fa un titolo su questa cosa. Poi siamo ad agosto e quindi è possibile. Allora, ci sono un paio di commenti all'intervista un po' sconcertante del lettore di Urbino, al quale chiedevamo di difendere il suo ateneo di fronte alle classifiche che lo sputtanano troppo, lo mettono in cattiva luce, esatto, come ultimo ateneo secondo l'indice di qualità del ministero. Allora ci scrive Carlo Maestrello: il Caltech ha meno di 3.000 studenti, non è questione di quantità ma di qualità, perché in effetti avevo detto che le università piccole sono quelle più deboli. Però forse non è giusto, ha ragione Maestrello. Poi abbiamo Fobe73 che dice: se volete sapere la qualità di un'università non chiedetelo a chi ci mangia ma agli studenti che la frequentano. Vabbè. E invece ha appena twittato Ignazio Marino, visto che abbiamo parlato di lui per la questione degli stipendi troppo bassi per i sindaci, e con una comunicazione di servizio che è: come promesso entro l'autunno il parcheggio di Arco di Travertino sarà aperto al pubblico. Vabbè, queste cose romane sono bellissime, perché esatto, l'Arco di Travertino, già questo ti fa sognare. Io prenoto un posto subito al parcheggio di Arco di Travertino, che è aperto al pubblico, diciamo, entro l'autunno, quindi diciamo non proprio domani, ma presto. Detto da Milano, il parcheggio di Famagosta, non so, non sarebbe la stessa cosa. No, non suonerebbe altrettanto bene. Non l'avrei letto, diciamo. È il momento del nostro punto di vista strambo, però. Intanto ricordiamo anche il numero verde 800 24 00 24, tra un attimo. Però adesso vogliamo distrarci e capire che cosa, come si fa a ridere senza motivo. Ritroviamo Davide Giansoldati, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Oddio, c'è stata un'esplosione. È una risata? Ecco, ecco, è già partita, è già partita, è fantastico, così, cioè, uno arriva, fa un botto e poi ride. Giansoldati, autore, chi ci ha sentito due settimane fa se lo ricorderà, un appuntamento a cui cerchiamo di dare un minimo di continuità, autore di Vivere meglio con lo yoga della risata. E ce l'ha già fatta sentire, esatto. Tra l'altro. Sì, che tra l'altro è molto complicato, siccome tu teorizzi il fatto anche di insegnare a ridere senza motivo, non sappiamo mai se credere se stai ridendo sul serio o se è una risata finta la tua. Ah, questa è bella. Ah, guarda, dopo un po' che lo pratichi, automaticamente scatta quella reale, quindi è solo questione di esercizio. Cioè diventa tutto reale, sia quella forzata che quella causata, perché questo è il principio, Gabardini, tu non hai capito, il principio è questo. Che tu vale uguale. Ridere, vale uguale. Certo, no, vale, cioè, lo stesso. Ho capito, ma io però se lo sento però ridere tu... voglio sapere se quello che ho detto l'ha fatto ridere, perché, veramente, oppure se, bravo, lui mette il pilota automatico e parte con la sua risata che prova da anni. Perché Giansoldati, qui c'è un piccolo conflitto di interessi. Siccome Gabardini, sì, lavora anche a cercare di far ridere la gente, è un autore, oltre che attore comico, è chiaro che lui si sforza di più perché deve fare un lavoro. Invece voi partite così a secco con la risata. Esatto, esatto, esatto. Come dicevo l'altra volta, è proprio una questione di muscoli. Quindi una volta che si imparano i muscoli da muovere, poi diventa... Pacci, possiamo andare. Se fosse per voi la categoria vogliamo. Degli autori comici potrebbe rimanere senza lavoro. Esatto. Giansoldati. Abbiamo realizzato. Ecco, guarda, quando parte la risata io mi preoccupo. Subito, sì. Scatta subito. Ma perché dobbiamo farla sentire, perché la sua risata è straordinaria. Però facciamo un minimo anche d'ordine, no? Ricordiamo anche cosa fa Giansoldati. Va a fare con dei gruppi nelle aziende, a far sorridere, a insegnare come si fa, dei training, dei veri e propri stage. Ci racconti qualcosa, Giansoldati? Sì, esatto. Quello di cui mi occupo sono proprio dei training di yoga della risata, dove insegno alle persone a ridere senza motivo e quindi a svincolarsi da qualsiasi fattore esterno e a trovare ogni giorno nella propria vita 10-15 minuti per ridere, ricaricarsi. No, io rido perché vedo ridere in redazione, già stiamo ridendo. Perché, e questo è uno degli effetti indiretti. E però perché questa cosa fa ridere, cioè il fatto di ridere senza motivo fa ridere, e quindi già abbiamo, esatto, raggiunto due volte l'obiettivo, sta diventando una cosa assurda. Ci vuole ricordare qualche esercizio che si può fare per andare, sì, su questa strada? Ne ho pensati tre, sì, che sono molto a tema, visto che tra qualche giorno le persone inizieranno a rientrare nelle grandi città, oramai le fiere stanno finendo, sì, e come ci insegna l'ANAS ci sono un po' di pericoli di code, rallentamenti e quant'altro, allora perché non fare la risata della coda in autostrada? E quindi, invece che come al solito arrabbiarsi perché l'altra, sì, fila è rischia moltissimo con questa cosa, andando sul crinale è difficilissimo, sì, sì, perché gli ascoltatori in auto sono quelli più, esatto, più incavolati. Poi oggi è venerdì. Facciamoci una bella risata tutti insieme, quindi cambiamo, rompiamo lo schema classico e ridiamo di qualcosa su cui normalmente ci arrabbieremmo e quindi... E si parte così. E si parte così. Ma faccia ma tipo, per esempio, non so, si può ridere su la capigliatura della mamma che si è fatta la messa in piega e è venuta male, non so, cose così di famiglia. Ma diciamo o che anche proprio lì senza... entra... Sì, si può fare anche questo, ma la sfida vera è giocare sulla propria autostima e quindi invitare la mamma a ridere della propria capigliatura, sì, certo, che non è venuta bene. Più che essere gli altri a prenderla in giro, è un po' di autoironia che aiuta la comincia nostra lei autostima, e scioglie, esatto, la strada per tutti. Vabbè, questo era un esempio in macchina, diciamo, esatto, contrastare l'umore corrente, che sarebbe l'umore nero, e si fa proprio un rovesciamento. Esatto. Altri esercizi magari più facili? Assolutamente. E sulla stessa falsa riga, da, sì, settimana prossima saremo tutti in città in coda per andare a lavorare, e quindi la risata del semaforo rosso. Quindi tutte le volte che siamo in ritardo, abbiamo un imprevisto, qualcosa, e c'è in più anche il semaforo rosso che ci, sì, fa rallentare, invece di arrabbiarsi, ridiamoci sopra, quindi una nuova sfida nel capovolgere le situazioni. La terza, sì, che è... Però ci dica qualcosa... Non in macchina la terza, no, se no siamo sempre in macchina. No, la terza... Qualcosa, aspettano 10 giorni di auto, mi sembra. Perfetto, allora la terza è la risata al cellulare. Questa è trasversale, la possiamo fare in qualsiasi momento, sì, quando ci sentiamo o in preda allo stress o abbiamo bisogno di fare una pausa, prendiamo il cellulare, lo spegniamo per evitare che proprio qualcuno in quel momento ci chiami, sì, e facciamo finta che ci sia all'altra parte dell'apparecchio qualcuno che ci racconta qualcosa di buffo e ridiamo. Ah, questo è molto bello, perché questo almeno giustifica, cioè, dà anche giustifica la sensazione, esatto, a chi ci vede che siamo, che possiamo scoppiare, esatto, a ridere senza così nessun motivo. Esatto, e questa funziona sia in ufficio. Però se qualcuno sia... mi vede che ho lo schermo nero spento, potrebbe anche per prendermi per un deficiente, però almeno ride anche lui e è perfetto. Esatto, poi è contagiosissima. Corriamo al rischio. Io non consiglierei, secondo me, di spegnerlo, lo lascerei acceso, perché la cosa più bella è che in quel momento, esatto, ti arriva una telefonata, certo, e tutti si rendono conto che sei un cretino. Però Gian Soldati, c'è un'altra cosa, no? Sì. E questo è il titolo del libro, in realtà è anche l'imbeccata per cominciare, credo, ad allenarsi, perché se uno, esatto, vuole indurre questa risata proprio da freddo, come si fa l'allenamento di questi muscoli? Proprio pronunciando queste vocali? Esatto, pronunciando questo mantra, e la prima volta si pronuncia proprio ho, ho, ha, ha, ha, la seconda volta si allunga il più possibile il ha ha ha, quindi diventa ho ho ha ha ha, e poi si toglie il ho ho e si lascia che il ha ha ha diventi una risata, così. E quindi qua ridono tutti, vabbè. Beh, è sottovoce, è perché siamo la più... tua risata è contagiosa, esatto, più che, diciamo, la tecnica che, sì, invece ma no, bisogna è essere anche difficile. Portati, perché insomma, famosi comici che ridono, è contagioso. Bramieri, per esempio, chi se lo ricorda, era strepitoso, sì, perché appena cominciava ridevano tutti, e sì, devo dire che solo qualcuno se lo può permettere, che di solito i comici che ridono di se stessi, sì, sono molto, sì, sì, ma lui era un tipo di quel tipo lì, Bramieri, mi ricordo che appunto aveva questa risata contagiosa, e devo dire che anche Gian Soldati, il prossimo, grazie, stage dove lo fate? Dove lo tieni? Il prossimo sarà a Milano. Però io sono stagista Milano, di professione, quindi magari vengo, esatto, facciamo un salto, no, anche no, no, ci conto proprio di avervi come ospiti al mio stage, poi vi darò un invito. Ma perché si diceva una volta che il riso abbonda sulla faccia degli stupidi? C'era questo detto così? Perché si confonde l'essere seri con l'essere seriosi. E quindi essere seri e ridere è una cosa seria. Soprattutto l'essere seri con l'essere intelligenti si confonde, direi. Anche. E quindi quel detto è proprio da tante persone che non riescono a capire cosa ci sia nella vita. Non va più di moda questa cosa qua ormai, è una cosa. No. E invece un'altra cosa curiosa, il Papa, per esempio, è uno che ride molto, no? Papa Francesco, è un po' un vostro testimonial in qualche modo. Perché no? Arruolarlo. Lui piuttosto che i tanti altri anche personaggi famosi, sì, tipo un Patch Adams, ce ne sono tanti di esempi che direttamente o indirettamente usano la risata per portare benessere, e questa è la chiave giusta di lettura, quindi ridere significa prendersi cura della propria salute. Grazie, grazie mille, faccio una risata e ciao e salutiamoci, dai, eccolo qua, bellissimo, grazie, buona serata Gian Soldati, a presto, voi, yoga della risata, ciao. 800 24 00 24, a tra poco con gli ascoltatori, adesso la borsa. And now, the good news! Il reddito di cittadinanza esiste, almeno a San Giovanni d'Asso, il più piccolo comune della provincia di Siena, con meno di 900 abitanti. Qui il sindaco, nel tentativo di ripopolare il borgo, ha promesso un contributo di affitto di 300 euro mensili alle coppie che volessero trasferirsi. Questa sì che è ospitalità! Fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Oh, c'è anche questa intervista di D'Alema, anzi questo intervento di D'Alema alla festa del Partito Democratico ieri in Umbria, credo che fosse, che ha riportato il Fatto Quotidiano, però poi c'è stata una smentita, perché D'Alema avrebbe detto: Letta è solo un leader di transizione per un governo momentaneo e con un programma di scopo, non sarà utile una seconda volta, per il futuro immagino Cooper lo segretario e Renzi a Palazzo Chigi. Poi però c'è stata una smentita della portavoce di D'Alema, Daniela Reggiani, che ha detto: dichiarazioni forzate dal Fatto Quotidiano che non corrispondono al vero, esageratamente polemiche. Però il titolo era: Letta non ha futuro, sembrava vinciamo con Renzi, sembrava che D'Alema avesse scaricato Letta, che invece alcuni vorrebbero in corsa per le primarie del PD proprio contro Renzi, l'anti-Renzi, no? E quindi poi c'è stata questa smentita. Penso che pensava di non essere molto ascoltato, diciamo. Perché era una piccola festa, sì, a Taizzano, dove c'erano tipo 80 persone, insomma, una cosa forse di è per quello, forse è per questo quello. Sono sempre i momenti migliori dove uno magari si lascia andare dopo la salamella e una birra. 824-0024, cari ascoltatori, cominciamo a andare a Modena, allora, dove ci chiama Giorgio. Buonasera. Se può abbassare la radio o spegnerla. Prego. Buonasera. Buonasera. Radio 24, complimenti per la vostra trasmissione e per lo spazio che mi lasciate. È tanto tempo che provo a chiamarla. Grazie. A chiamarvi. Allora, io sono un misero terremotato della zona della Emilia-Romagna, provincia di Modena. Sentendo queste notizie di un certo Don Berlusconi, come lo chiamo io, mi sembra di trasalire, cioè di non capire queste cose. Noi terremotati abbiamo tantissimi pensieri e ci sembra assurdo pensare di dare l'agibilità a una persona che è stata giudicata in varie diverse istanze e che è stato dichiarato colpevole. Quindi non riesco a capire tutto questo balzello che il PDL fa per salvare una persona che è già stata giudicata. Se uno è colpevole, è colpevole. Ma lei ce l'ha l'agibilità di casa sua adesso, tanto per usare no, sono nei container. Noi nei container, sentire queste notizie, ci viene la pelle d'oca. I problemi sono altri per l'Italia. I terremotati, il lavoro che manca, per i giovani, il futuro dei giovani. Questi sono grossi problemi. Vabbè, Giorgio, in bocca al lupo per lei, per la sua, per tutta la sua, per la casa, per la sua attività lì nelle zone terremotate. Grazie per essere stato con noi. Andrea da Genova, buonasera. Buonasera. Prego. Salve, senta, io volevo fare un'osservazione. Si ricorda quella bella pubblicità che c'era sui parassiti, che gli evasori sono dei parassiti? Sì, la pubblicità dell'Agenzia delle Entrate. Brava. Voluta da Befer. Ma come mai questa pubblicità? Se tutti pagano le tasse, le tasse ripagano tutti, mi pare che fosse. No, dico sì, ma se la ricordo. Ma come mai questa pubblicità dei parassiti non lo fanno per i boiardi di Stato, per queste pensioni d'oro, l'esercito, guardia di finanza, privilegi, legge 104, legge 105? Lo sai che c'è un popolo che vive a una velocità e un altro popolo che vive a un'altra velocità? Cioè, i soldi in Italia ci sono, e ce n'è tantissimi, è che non sono distribuiti bene. Cioè, lei ha presente, no, quella pubblicità lì? Sì. Poi è sparita, tutto di un colpo è sparita. Ma è sparita quella pubblicità? Cioè, rivuole quella pubblicità, non abbiamo capito. Cioè, vorrebbe applicarla delle altre cose, dove però non è applicabile. Il parassitismo non c'è soltanto nell'evasione fiscale. Sì, sì, sì, no, beh, lo sappiamo bene. Nello statalismo, in questo statalismo, nel privilegio, in queste cose qui che ieri aveva fatto la Beppe. Perché non fa la pubblicità di quel sito Facebook che parlava ieri? Ma non gli dia questo consiglio, che poi dopo spendono dei soldi per fare una pubblicità per dire che non bisogna. Vabbè, ma li spendono, ma guardi, ne buttano via tanti soldi. Ah, vabbè, ho capito. Era una cosa provocatoria, non è un buon di motivo Andrea per degli altri. Per dire che la lotta all'evasione bisogna farla a fianco al taglio degli sprechi, e questo è un vecchio mantra, è giusto, è giustissimo. Luca da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Io vorrei solo dire una cosa: sono indignato come tanta gente sicuramente, sì, per il discorso di Berlusconi, ma quello che non riesco a capire è come tentano di giustificarmi il fatto, tipo la Santanchè, che dice solo perché ha preso dei voti, 10 milioni di voti, che è tutto discutibile, 10 milioni, visto che c'è il 50% che non ha votato, però che ha preso questi voti, per cui dobbiamo trovare una soluzione. Resta sempre il fatto che comunque, allora, quando uno è forte o è potente o c'ha i soldi, può fare quello che vuole, allora siamo a livello di dittatura. E poi vorrei dire anche che a questo punto facciamo come se guardiamo il Vangelo, quando che ha messo Barabba e Gesù Cristo, allora visto che hanno scelto Barabba, ma era un delinquente anche lui, vuol dire sollevazioni di popolo, cosa vogliamo mettere in discussione? Questa è la citazione che ha fatto Alfano ieri, eh? C'è un vescovo, credo oggi sul Corriere, che ha detto che non gli era piaciuta questa... In realtà è Alfano lei al telefono? Sotto mentite spoglie. Esatto, sta camuffando la voce? La sento male. Pronto? Va bene, abbiamo capito, grazie intanto anche a lei, buona serata. Gli hai detto di spegnere la radio e ovviamente ci sente male, giusto? No, lui non l'avevo detto, l'avevo detto a quello di prima. Pietro da Palermo, scuola. Buonasera. Pietro. Buonasera. Eccoci. Mi sente? Forte e chiaro. Buonasera. Sì, benissimo, buonasera. Allora, io sono volevo intervenire a proposito dell'utilizzo delle auto blu, argomento che mi pare sia stato quello iniziale. Proprio oggi pomeriggio ho assistito a una cosa per me scandalosa. All'ospedale di Cefalù, alle ore 17, c'era l'ex presidente del Senato Schifani con l'auto blu, autista, scorta, che più ne ha più ne metta, che ha usufruito del servizio pubblico dell'assistenza sanitaria con l'auto blu, in ferie tra l'altro. Chi era in ferie? L'auto blu. Ah, lui era in ferie, sì. Beh, ma se ha la scorta... Sottoporla soltanto alla sua riflessione, a quella degli ascoltatori. Ma se ha la scorta, è ovvio che deve andare con la scorta, non è che quando va in vacanza va via la scorta, nel senso che se ha la scorta evidentemente ci sono dei motivi. Potrebbe anche non essere una scorta, ma semplicemente un'auto di servizio, come capogruppo, che ne so, del Parlamento, e non dovrebbe usarla quando è in vacanza, questo vuol dire forse l'ascoltatore. Veramente in ospedale. Però non stava, ma se stava anche andando in ospedale, tra l'altro, fra tutte le cose, mi sembra, nel senso che, non lo so, magari si è sentito poco bene, onestamente, a me che auto usi nel momento che si sente poco bene, mi sembra anche poco importante, no? Pietro, ma bisognerebbe sapere se Schifani ha la scorta per motivi di sicurezza, per qualche motivo, oppure no? Guardi, questo io non lo so, soltanto allora, che c'era fuori, tra l'altro, in uno spazio non abilitato per la sosta, ma per le ambulanze, per le necessità, la macchina... l'auto blu e dentro c'era il senatore Schifani. Questo secondo me è sbagliato in assoluto, se è vero quello che dici, cioè uno può avere anche l'auto blu perché magari ha diritto alla scorta eccetera, però poi parcheggia come tutti, non è che va al posto delle autoambulanze, perché almeno questo è quello che penso io. Grazie, sì, comunque non Pietro, sapendo se è un'emergenza o meno, questo accadeva a Cefalù alle 17, esatto. Invece a Monte Carlo, secondo Gasparri, Fassino veleggiava in barca a vela con il banchiere Bazzoli. Esatto, una notizia, sì, che dovrebbe essere è stata ripresa dal Fatto Online. L'hai trovata? Fatto Online? Allora, ma anche perché pare che sia effettivamente una barca incredibile, nel senso che è una delle 200 imbarcazioni più lunghe del mondo. È uno yacht che è lungo poco meno di 40 metri. Io non la vedo questa notizia, però non c'è nulla di strano o scandaloso. Però certo, Fassino, quello che aveva detto, abbiamo una banca. Sono molto amici Fassino adesso e Bazzoli. Adesso barca con quello che c'ha la banca e fa ridere anche un po' questa cosa qua. Oltre che far scandalizzare abbiamo qualcuno, una banca. Sicuramente. C'hanno una banca e sono insieme in barca. Esatto. Adesso che facciamo? Abbiamo la prossima ospite, sì, ci ha raggiunto Nadia Urbinati, politologa della Columbia University di New York. Buonasera. Sì, buonasera. Attualmente in Italia o a New York? In Italia, al mare. Fresca, fuoriuscita con code polemiche dalla Commissione per le riforme istituzionali messa in piedi. Io mi sono un po' perso su questa storia della commissione. Prima di tutto, come si chiamava esattamente? Commissione degli esperti o dei saggi, non so, per le riforme, per la riforma della Costituzione, no? Sì, i famosi 35. E che sono diventati 33, perché una se n'è già andata un po' di tempo fa e adesso se n'è andata lei in polemica con il presidente di questa commissione, Quagliariello. Perché? Ma più che polemica, anzi non è affatto polemica, è una precisazione dovuta, perché come presidente di una commissione di esperti e non quindi una commissione politica o di eletti o di parlamentari, evidentemente lui, come noi, si presumeva essere un poco distante dalle dalle lealtà dirette politiche o partitiche, e questo era sperabile che continuasse. Sì, così è stato per tutte i due mesi nei quali io ho lavorato con molta soddisfazione e con molto piacere. E però ultimamente, anzi mi sembra ieri ha scritto un articolo, ho rilasciato interviste in cui invece ha preso una posizione che, a mio modo di vedere, ha violato quello che nelle mie interpretazioni doveva essere un suo ruolo formale, istituzionale. Un'intervista al Foglio, ma che cosa ha detto che non va bene secondo lei in questa intervista? Innanzitutto ha paragonato la commissione che dovrebbe giudicare sulla eleggibilità o l'ammissibilità eccetera del senatore Berlusconi un plotone di esecuzione. Ha ripreso questa espressione che viene usata. E poi insomma ha parlato di compromesso da usare per togliere il problema di torno, ovvero per mantenere stabile il governo, usare queste strategie. Ora, indipendentemente dall'opinione, ognuno si tiene le proprie opinioni, e io non intervengo su questo, penso che in qualità di presidente di quella commissione non doveva esprimerle, tutto lì. Cioè, in quanto presidente di una commissione, fra l'altro dedicata alle riforme istituzionali, doveva avere uno stile istituzionale più asciutto. Però, scusi, professoressa Urbinati. Mi permetto di dire, non è tanto il fatto che fosse commissione per le riforme, è una commissione di studio. Sì. Però questo c'è qualche dubbio, perché con tutto il rispetto per lei, professoressa della Columbia University, ma anche di altri esponenti, però è zeppa di politici questa commissione, non è che sia una commissione solo di professori universitari. Ma guardi, per me le forme sono fondamentali perché sono sostanza. Tutti noi abbiamo idee anche politiche, oltre ad avere idee di tipo, diciamo così, tecnico. Tutti noi. Ma qui ci sono proprio degli ex ministri, ex onorevoli del PD, del PDL. Benissimo, ma quella commissione... Che sono chiaramente nominati per questioni politiche. Però quella commissione doveva fare di tutto per essere quello che aveva promesso di essere. Cioè, una commissione di studio. Ora... Se lei e io abbiamo idee, certo che le abbiamo e ce le teniamo, ma quando entriamo in quella veste facciamo uno sforzo di autocontenimento delle nostre lealtà politiche per operare al meglio, ovvero per creare un clima e mantenerlo nel tempo di dialogo al di là di quelle che sono le nostre preferenze. Questo bisogna farlo, altrimenti non è più una commissione esperta, è una commissione politica come quella. Però quindi vale anche la dichiarazione fatta fuori dalla commissione da parte di Quagliariello in questo caso, perché lui non ha detto queste cose dentro la commissione, chiaramente. Certo che vale, ma lui è un presidente, lo rimane. E quindi deve avere questa cosa. Esatto, io l'avrei avuto questa accortezza. Però, scusi, ma per quale motivo, cioè sicuramente anche per le conoscenze in materia, ma uno come Violante... No, che fa parte di questa commissione, non è chiaro a tutti che viene nominato anche perché è un politico? Uno come Quagliariello, che è il presidente, non sta in questa commissione anche perché è un politico? Ma lui è un presidente, lui è più di un membro, lui rappresenta davanti alla, diciamo così, all'opinione italiana, rappresenta l'intera commissione. Io non mi sento rappresentata quando lui fa queste uscite, mentre un singolo membro, se le fa, può comunque essere oggetto di critica, ma non è una ragione sufficiente per me per, diciamo così, rassegnare le dimissioni. Lo è se il presidente prende quella posizione e lo prende soprattutto all'interno di un discorso di tipo costituzionale che io ritrovo riprovevole. Ma questo significa null'altro che noi abbiamo idee diverse su quello che è il ruolo delle istituzioni e il ruolo di chi le ricopre. Io credo che le forme siano una fiction, cioè una fiction, cioè una diciamo così, una cosa che non esiste, ma ci consente a tutti di operare come se noi fossimo in quel momento capaci di estrarci dalle nostre lealtà politiche. Ho capito. Senta, ma non è che magari c'è anche in aggiunta a questa cosa qua un po' di delusione per questa commissione che può essere... può essere vista lontano dal suo obiettivo, no? Perché questa commissione era chiamata a elaborare dei pareri che poi sarebbero andati in Parlamento. Li sta facendo. dicendo. Io penso che abbia lavorato bene e svilupperanno, infatti sono in fase di scrittura, svilupperanno queste diverse opinioni. Io ho molto rispetto per tutti coloro che hanno lavorato e abbiamo lavorato, io tra gli altri, con molto coscienza e anche forza e senza avere nessun rapporto di tipo economico con nessuno, e quindi liberi, assolutamente liberi, e in nome di quella libertà abbiamo lavorato. Io dei destini politici che avrà il lavoro di questa opinione non posso dire, non è quello, no, io da parte mia non c'è alcuna delusione per il lavoro della commissione, c'è una delusione per l'incapacità, a mio parere la mancanza di volontà, di comprensione da parte dei ministri, in questo caso del ministro Quagliariello, di tenere lui una posizione, una funzione al di sopra. Però a questo punto, scusi, per essere conseguenti a quello che lei ha detto, a questo punto la commissione ha lavorato bene sin qua, però dopo questa presa di posizione di Quagliariello che l'ha indotta a dimettersi, lei questa commissione non la giudica più all'altezza di quello che dovrebbe essere il suo compito? Ma lui ha contribuito a rendere la commissione meno legittima, decisamente. Ma sul percorso che prevede la commissione e poi appunto le proposte che andranno a sua volta nelle commissioni parlamentari e poi a sua volta, lei, fino al giorno prima delle dimissioni, credeva veramente che questa cosa potesse arrivare in fondo? Guardi, quando si accettano questi incarichi, anche controvoglia o perché o con molte riserve, li si devono portare avanti consapevoli del fatto che si deve lavorare come se ci sia una soluzione di successo, sempre. Sempre deve essere così, altrimenti non ci si imbarca in nessuna impresa. E quindi io mi sono imbarcata in questa impresa, nonostante i miei dubbi, poiché ho i dubbi su questa alleanza di governo, come se dovesse arrivare in porto secondo gli obiettivi. E io ho lavorato per questo. Questo doveva essere così anche da parte, e soprattutto da parte di chi la dirigeva. Con tanti, diciamo così, leali al leader di PDL. E ne aveva tanti di leali che hanno espresso pareri, lui poteva astenersi almeno fino a quando la commissione non aveva svolto la sua funzione, ovvero la fine di settembre, e questo non lo ha fatto. A me è sembrato una ragione più che sufficiente da parte mia per non sentirmi più, la mia coscienza di non sentirmi più parte di questo progetto, ecco. Se non fosse stato presidente avrebbe potuto dirle quelle frasi? Certo che l'avevo dovuto dire. Perché gli altri della commissione hanno espresso, proprio Ceccanti è uno che è entrato nel dibattito politico su Berlusconi. Lui è un meme, lui rappresenta me, rappresenta se stesso, ma il presidente rappresenta anche me. E quindi ha una funzione diversa. Io ritengo che molte volte nel nostro paese ci sia una confusione di ruoli. Sì, no, ma questo è chiarissimo. Questo basta. È chiarissimo. Dal suo punto di vista, su questo è chiarissimo. Senta, invece, sul merito del lavoro della commissione, a che punto eravate arrivati? Ce lo può dire. Certo. No, si era arrivati a un punto in cui si dovevano raccogliere le varie ipotesi sulla superamento del bicameralismo perfetto cosiddetto, sulla forma di governo, ovvero rafforzamento o, come si diceva, anche razionalizzazione del sistema parlamentare, o invece adozione del semipresidenzialismo. Qui ci sono ipotesi diverse ovviamente, e poi sul titolo quinto, e quindi quelle modifiche che dovevano aiutare non solo a snellire il lavoro delle regioni e anche degli organismi di giudiziari dello Stato, per evitare, come è avvenuto in questi anni, contenziosi, per rendere più spedite e anche oggetto di controllo maggiore il lavoro delle regioni. E questo è stato in parte il lavoro fatto, insomma. Si trattava adesso, da questo momento fino a circa metà o la seconda metà di settembre, di mettere insieme con la scrittura e in maniera anche tecnica e quindi con molta attenzione alle parole tutte queste ipotesi. Non si votava, quindi non c'era maggioranza, opposizione, nessuno doveva sentirsi di sacrificare le proprie opinioni, e questo è un fatto molto importante, anche perché erano commissioni d'opinione, non di decisione. Senta, non so se rientra in materia politologica, però direi di sì. La questione della legge Severino, secondo lei, va applicata come? No, questo non rientrava nel nostro... No, vabbè, non nella missione... La sua opinione qual è su questa cosa? Io sono stata in Inghilterra varie volte, ho passato molti anni della mia vita fuori, e per delle banalità mi sono sentita ripetere dal primo funzionario come dal vigile: the law is the law is the law, this is all. Cioè la legge è legge? È legge, questo è tutto. E quindi va applicata? Sì, certo. Però adesso c'è da fare un voto in giunta al Senato. Vabbè, adesso vedremo se loro riescono a votare secondo... secondo il principio the law is the law is the law, o secondo il principio yes, the law is the law, but sometimes it cannot be the law. Come? Scusi, ce la rifà questa? The law is the law, but? But sometimes it's not the law. Ok, cioè lei dice qualche volta la legge non è la legge, però non va bene. Va bene, perché allora diventa veramente un fatto d'arbitrio, anche se lo decide la maggioranza, un arbitrio. Però allora perché la Camera prevede, e la Costituzione italiana tra l'altro prevede, che siano le Camere a votare su queste cose qua? Ma lo ritengo che sia giusto, perché c'è un elemento, cioè la Camera ha una sua autorità sui membri che la compongono e sull'esito delle elezioni, deve avere, altrimenti può essere anche rischioso. Quindi questo qui a me non è un problema. In ogni caso, questa è la legge e questo deve essere. Diceva Socrate nel Crito, quando offrirono a lui la possibilità di scappare per difendere la vita: no, io resto, perché le leggi bisogna lottare per cambiarle, ma finché ci sono si devono rispettare. Quindi rispettare la legge in questo caso vuol dire votare per la decadenza di Berlusconi. Scusi, ma se era lei e o io nella stessa situazione, lei crede che si sarebbero ammazzati così tanto? No, per me non si sarebbe ammazzato nessuno sicuramente, di questo sono sicuro. Ve l'ho. Va bene, grazie mille a Nadia Urbinati, buona serata, politologa alla Columbia University. Perché ride adesso? Come mai ride Urbinati? Perché sono così questioni... Sì. Semplici e evidenti, e dovere parlare tanto per dire che se c'è una legge c'è, è così è incredibile. Forse perché lei sta in America e è abituata a un dibattito diverso, in Italia forse... Il paese ha le sue leggi, quindi noi non ce l'abbiamo. Cosa non abbiamo? E non abbiamo una legge, se ogni paese ha la sua, nessuno ce l'ha. Chi ce l'ha? Io non credo che sia così. Non è che perché il signor Berlusconi o il senatore Berlusconi è molto forte e il suo crack potrebbe avere delle conseguenze, non è per questa ragione che si deve dire: ah, siccome questo signore è così forte lo si deve in qualche modo blindare da qualche parte, sennò... no, è perché se questa è la situazione, noi siamo già in una una uscita dal governo della legge, da un sistema di diritto, e entriamo in un sistema di potere di qualcuno. Sì, no, ma è chiaro, però c'è un passaggio parlamentare che è anche un passaggio politico, e questo è inevitabile, cioè non è che ma deve esserci. È ovvio. E quindi che deve se ne può parlare di votare sì o di votare no. Ma certo che se ne può parlare, però quelli che hanno in mano la possibilità di riflettere su questo devono saper riflettere pensando a quale legge loro devono rispondere. Va bene, benissimo, grazie ancora, buona serata. A Nadia Urbinati, che se n'era andata prima ridendo, poi ci ha ripensato. Bellissima, terza risata. Anche bello quando ha detto di Berlusconi il suo crack potrebbe avere delle conseguenze. Per un momento ho detto: hai pensato di al crack, esatto, che si fuma. Esattamente. Comunque the low is the low is the low. Potrebbe essere arruolata da Gian Soldati, quello dove dovevo andare la risata, perché gli è partita proprio così, naturale. Va bene. And now, the good news! Tra le corsie di alcuni ospedali torinesi si possono incontrare i volontari per la lettura, uomini e donne che impiegano il loro tempo libero alleviando la noia dei pazienti. Si aggirano tra i letti leggendo ad alta voce estratti di libri e di racconti, volumi ad alto volume. Franco dalla provincia di Padova, buonasera. Sì, buonasera. Anzi, sentiamo i titoli di Sky TG24, va un attimo. Sì. Si aprono i ministri Mauro e Cancellieri, ma per il PD è indecente parlarne. IMU solo ai più ricchi, Brunetta attacca Del Rio, faceva meglio non parlare, la tassa va tolta a tutti. Il ministro replica, il tema mi compete. Due esplosioni dopo la preghiera del venerdì nella Tripoli libanese, oltre 40 morti in due moschee, l'attacco più sanguinoso da 20 anni. Carmine Schiavone, boss pentito della Camorra, parla in esclusiva a Sky TG24. Troppi interessi, la mafia non morirà mai. Positivo a cocaina ed hashish, il gondoliere coinvolto nell'incidente costato la vita ad un turista tedesco è indagato per omicidio colposo. Riprendono gli sbarchi, soccorsi al largo di Siracusa 125 persone in fuga dalla guerra in Siria, fra loro donne e bambini. Incrocio di partenze e rientri, si apre un fine settimana critico per il traffico sulle autostrade italiane. Dopo 3 mesi di pausa riparte il campionato. L'astinenza finisce domani con Verona-Milan e a seguire Sampdoria-Juventus. Buonasera da Sky TG. Eccoci qua. Allora, un po' di messaggi per l'intervento di Nadia Urbinati. Applausi alla signora Urbinati, dice Angela. Poi c'è chi invece credo ironizzi. Un mito, quanta chiarezza. The Low, firmato così questo. The Low is the Low. Io questa la canterò tutta la notte. Credo. Avevamo Franco in attesa dalla provincia di Padova. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Ma guardi, io volevo intervenire sull'università. Mi ha stuzzicato la faccenda dell'Urbinati. Sì. 45 anni fa a me a scuola hanno insegnato che il potere legislativo spetta al Parlamento, per cui casomai è il Parlamento che si avvale di altra gente per capire meglio cosa decidere, cosa legiferare, per cui quella commissione come quella prima sì. Sono solo delle cose che secondo me sono illegittime, per non dire illegali, ma comunque lasciamo stare. No, ma mica è un punto di vista questo qua, in effetti è un punto, qualcuno ha detto c'è già il Parlamento per decidere queste cose. Ma loro devono dare dei consigli. Loro facciano delle proposte. Fanno delle proposte. No, ma loro perché devono fare delle proposte al potere legittimo legislativo che è il Parlamento, quindi casomai il Parlamento che si avvale. Però capisci che l'assurdità è che loro potrebbero fare delle proposte e poi il Parlamento fare l'esatto opposto, quindi un lavoro inutile. Non hanno alcuna legittimità istituzionale dal mio punto di vista. Comunque, il problema è l'università. Sì. Il problema è l'università, l'ho vissuta così sulla pelle di mio figlio, ecco, insomma, no? Allora, Italia 16 facoltà di enologia, Germania 1, Francia 4 o 5. Lasciamo stare la Germania che poi è al top sulla ricerca dei lieviti, fermenti, enzimi, eccetera, eccetera, no? Ecco, lasciamo stare la Germania. Francia e Italia 1-4, è possibile? Non è possibile, cioè l'università la facciamo per chi? La facciamo per assumere dei dipendenti improduttivi oppure la facciamo per creare dei professionisti? Quindi sta dicendo che dovrebbero esserci meno università? Sto dicendo che perché poi tanto non c'è lavoro, quindi uno cosa va a studiare? Il problema non è solo questo. Il problema non è solo questo di creare dei posti di lavoro improduttivi di gente che non produrrà nulla nella sua vita, che non ha prodotto nulla nella sua vita. Vabbè, ma uno può anche studiare legge e poi dopo invece andare a fare magari un altro lavoro, non è che non è un problema. Non è che non produce niente nella propria vita, se uno studia non filosofia. No. Allora, se lei va negli altri stati, qualche università, soprattutto dei paesi anglosassoni, se l'insegnante, oltre che insegnare, non produce ricerca, lo mandano a casa, va bene. Noi ne abbiamo 16 rispetto a 4-5 della Francia, questo è un primo problema. Il problema poi collegato, no? Di cui si parla sempre dei soldi, dei fondi per la ricerca, dell'innovazione e quant'altro, è che in questa miriade di università che abbiamo in Italia, siccome devono dare soldi a tutti, potremmo parlare di qualsiasi altra facoltà, va bene, si disperdono, per cui non producono nulla. Va bene, grazie Franco. Sa qual è il problema? Prego. Che si spende troppo poco in Italia per l'istruzione in realtà, perché questo si è il dato. Si spende male più che è poco. Il dato. No, si spende poco, perché questo è il dato. No, guardi, allora le faccio un altro esempio. Nessun esempio, grazie Franco. Lei ha già detto quello che voleva dire. Grazie Franco, buona serata. Nelle statistiche europee l'Italia spende poco e quindi questo è un altro punto di vista, no? Un altro punto, anzi, di riferimento. Poi si spenderà anche male, ma si spende sempre troppo poco. Titoli del TG1. Fa discutere la proposta di un'amnistia per risolvere il caso Berlusconi, chiusura netta del PD, il ministro Quagliariello al TG1. Il Consiglio dei Ministri rinvia lunedì l'ok su Italia alla spesa, ma l'accordo politico c'è. Banca Italia, primi segnali di una lenta ripresa. Libano, il venerdì di preghiera si trasforma in tragedia, duplice attentato di fronte alle moschee, decine di morti, centinaia i feriti. Siria, il monito di Ban Ki-moon, l'uso dei gas, un crimine contro l'umanità, l'UNICEF, emergenza rifugiati, 1 milione di bambini in fuga. Venezia, positivo ai test di droga. Il Gondoli era investito dal vaporetto e indagato per omicidio colposo per la morte del turista tedesco. Fori imperiali chiusi al traffico, ma non ai camion bar. Italia Nostra denuncia il degrado dell'area. Mancano anche adeguati servizi igienici. Domani riparte il campionato. Il Milan contro il Verona, poi la Juve, campione uscente, sarà a Genova contro la Samp. Il portiere bianconero e della nazionale Buffon al TG1. Darei 4-5 anni della mia carriera per vincere la Champions. Allora, riprendiamo con i vostri interventi, ascoltatori. Abbiamo Gaetano che ci chiama da Latina. Buonasera. Pronto? Prego. Buonasera. Senta, io sono due giorni che cercavo di collegarmi con voi per dirvi qualcosa a proposito di Berlusconi. Però ha parlato ieri sera l'onorevole Gozzi e quello che ha detto Gozzi mi trova perfettamente d'accordo, quindi non mi ripeto. Volevo però farvi due domande, se è possibile. La prima. Prego. L'onorevole Violante, che ha detto che la faccenda Berlusconi andrebbe approfondita a proposito dell'applicazione della legge Severini, è Luciano Violante? Sì, Violante è uno di quelli che ha detto questa cosa qua, sì. Perché? E se ancora dico, nel 1997 era presidente della Camera, ma perché non si va a far rottamare? Sta ancora in giro, dico. Ma come si fa a dire una cosa? Che ne stanno in giro da tanti. Ce ne sono parecchi. Ma perché non si rottama? E vabbè, questa è una mia battuta. Un'altra domanda. Sì. Ho sentito proprio adesso il telegiornale una proposta di amnistia pro Berlusconi. Ma qua siamo nell'assurdo. Facciamo le amnistie ad personam? Poco fa il ministro, grazie intanto, Lupi, ministro del PDL, ha detto non c'è nessuna richiesta da parte del PDL di fare un'amnistia. È stato il ministro Cancellieri che aveva avanzato questa cosa qua. E quindi però il PDL adesso fa marcia indietro, come volete dire voi. Sono curioso di vedere, sì, al TG1, che abbiamo sentito dai titoli che c'è Quagliariello al TG1 che magari risponde alla risata della Urbinati, sarebbe molto divertente. Adesso vediamo, magari riusciamo. C'è intanto Frattini, non so, però a Sky TG24 vogliamo sentire sull'amnistia? Ma perché si tratterebbe di un provvedimento che affronta un grande tema strutturale del sistema giudiziario e penitenziario, un tema che è stato affrontato tra l'altro volte, Frattini è un altro membro della commissione da cui la Urbinati, può vedere che alla fine bisogna dare ragione alla Urbinati, perché anche Frattini interviene su questa questione qua, pur essendo uno dei saggi, dei 35 saggi che dovrebbero ragionare in tutta tranquillità su come riformare, sì, le istituzioni. Vabbè, sì, ma anche detto che da un lato è giusto, nel senso, pure no. Però voglio dire, Quagliariello è anche un politico, non è che parla sempre, sì, solo in veste, non è che lui sia solamente il presidente di questa commissione delle riforme. Il problema è che fa ridere una commissione che è chiamata a dare dei pareri, una commissione di esperti piena zeppa di politici. Allora tanto vale fare una commissione parlamentare di politici che fanno quello che gli pare e fanno i politici fino in fondo. Quello che fa ridere è fare una commissione di esperti dove gli esperti sono Frattini, che fa il politico, ma anche Violante, che fa soprattutto il politico. Ma soprattutto the law is the law is the law. Soprattutto. Volevo dire. Stefano da Bologna, buonasera. Sera. Prego. Buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione, lei è molto, grazie, bravo. Grazie. E anche il suo stagista, un po' meno, mi ricordo bene, in Camera Caffè. Grazie. Molto bravo, complimenti. Senti, io volevo dire due cose, posso? Certo. Mi sente? Sì, forte e chiaro. Ah, ok. Due cose, una velocissima. Qui ci stiamo dibattendo sul discorso di Berlusconi, l'incandidabilità, eccetera. Ma questo non ha finito con i processi, ragazzi. C'è Rubi. Questo lo massacrano con Rubi. Oh, ragazzi, sembrava Bersani a un certo punto, Stefano? Sì, ci sono gli altri processi. C'è Rubi, poi c'è il discorso di quello, adesso mi viene il nome. Vabbè, insomma, adesso non stiamo a elencare i processi. Quell'altro processo, quindi questo non ha nessuna possibilità di continuare nella scena politica. Io la vedo così, cioè, quindi secondo me, cosa vogliamo fare? Gli diamo la grazia adesso, poi dopo gli altri processi bisogna pure andare avanti. È uno dei motivi per cui non vogliono chiedere la grazia, probabilmente, perché chiedere la grazia dopo avere magari un'altra condanna, poi diventa anche fastidioso chiedere due grazie all'anno, ecco. Anche tre, casomai, quindi mi sembra una cosa assurda. Cioè, adesso può darsi anche che nei prossimi due processi venga assolto, per amore certo del cielo. Non, io non credo, perché conoscendo le ragazzine che andavano in quelle... Come conoscendole? Le conosce? Ci parli di loro allora? No, beh, ci parli. Le conosce anche lei? Le conosce anche lei? Come le conosce? Ma c'è mia mamma che l'ascolto. Le conosce anche lei? Che viveva in quegli studi televisivi, no, benissimo. No, guardi, perché la produzione di Maioria, e quindi assolutamente io non andavo agli studi di Mediaset, e comunque non le conoscevo, mi spiace, non so. Sì, vabbè, è chiaro che non le conosce né Stefano né Carlo, vi piacerebbe, ma invece non è così. Grazie Stefano, buona serata. Francesco da Roma, buonasera, prego. Bisognerebbe riguardare la professoressa Urbinetti, che se sono crede... cioè lei entra così. Però... Buonasera. Buonasera. Buonasera, ecco. Signore. Ho detto buonasera e poi ho detto bisognerebbe ricordare alla professoressa Urbinetti, sì, che se Socrate ha bevuto la cicuta, sì, altri personaggi famosi come Alcibiade, come lo stesso Pericle che si era appropriato del tesoro della Lega di Delo, come no, tutti quelli che hanno plasmato la potenza di Atene si guardavano bene, anzi si sottraevano se ne avevano la possibilità dall'autorità giudiziaria, quando quest'ultima diventava invasiva. E nei paesi anglosassoni che citava la professoressa questo problema non esiste. Io comunque volevo intervenire, non abusando della vostra pazienza, sull'università. A me fanno ridere professori, rettori e soloni quando si accapigliano sulle classifiche, professori, sì, rettori e soloni italiani, sì, non tanto per le classifiche in se stesse che possono avere dei parametri validi, ma per la situazione in cui versa l'università. Mi pare di vedere degli atleti che hanno due spettatori sugli spalti, no? La tribuna vuota, e si mettono a discutere come assegnare il punteggio. Io ho avuto piccole ma significative esperienze di professore a contratto nelle facoltà di architettura ed ingegneria. Cioè lei ha fatto il professore a contratto? Sì, ho fatto il professore a contratto e anche a lungo. Sì, ho fatto il dottorato, la scuola di specializzazione, il professore a contratto nelle facoltà di architettura ed ingegneria, e mi sono accaduti due fatti sintomatici che pongo alla vostra attenzione. Uno è che i baroni si scandalizzavano quando sapevano che io, accanto all'attività didattica, seguivo, sì, a fare il mio lavoro di architetto e di ingegnere, no? Ecco. Ma questo è consentito? Ma certo che è consentito. Perché lei era a contratto. Perché io ero a contratto, lavoravo con la partita. Perché gli altri invece no, sì. Certo, ma poi tra l'altro percepivo un compenso simbolico. Io mi pagavano per una materia di 4 crediti in un anno, mi davano 80 euro a credito, IVA compresa, quindi prendevo 320 euro, quindi io lo facevo più per carriera e per prestigio personale, ma poi dovevo campare. Il fatto però che mi applicassi al lavoro mi aiutava anche nella ricerca, no? Nella didattica, perché non mi isolavo dal mondo professionale. Beh, ma adesso fa il professore, perché ci sta raccontando tutta questo, la sua vita? Francesco? Concludo sulle pubblicazioni. Sì. Allora, io trovo delle pubblicazioni, comprese quelle che ho scritto io, dopo 4-5 anni le trovo come carta straccia, va bene, come carta straccia a un non euro dei venditori di libri usati, mentre viceversa ci sono vecchi libri di professori, sì, per utili anche ai professionisti, per ripubblicare i quali, sì, le case editrici fanno a gara. Ma dipende dai titoli, è molto semplice, nel senso che lei ha trovato le sue pubblicazioni vendute a un euro dalle bancarelle? Che delusione. No, certo, ma quelle usate, sì, cioè libri che costavano... Ma lei vuol dire che le pubblicazioni non sono tutte uguali, cioè non è utile misurare a numero, bisognerebbe... Però sa, se uno si mette in testa di voler misurare la qualità dell'università, l'efficienza, qualcosa deve contare, deve misurare... oppure ci mettiamo lì ad analizzare tutte le ricerche e vediamo qual è la migliore. Però quello che dice lei non è mica da sottovalutare. Poi io mi vanterei in realtà di avere delle pubblicazioni vendute sulle bancarelle, che quindi, perché di solito la maggior parte delle pubblicazioni finiscono al macero, non è che diciamo... Ha capito, cioè già qualcosa, Francesco, cioè, se, almeno a un euro erano vendute. Vabbè, volevamo scherzarci su, grazie, noi staremo ad ascoltarla tutta la sera, però... È giusto far ha parlare... una voce ipnotica. Ipnotico, Francesco, sì, adesso non c'è più, va bene, grazie. Si è auto-ipnotizzato. Si è auto-ipnotizzato, si è fermato là, facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra un attimo. And now, the good news! Alla Garbatella, uno dei quartieri popolari di Roma, è tornato di moda il forno comunitario. Tutti sono liberi di portare la pasta preparata a casa e di utilizzarlo per fare il pane. Il forno è stato costruito e finanziato collettivamente, così oggi chi ha i denti ha anche il pane. Si può fare l'attualità anche d'estate. Marco da Salerno, buonasera. Tocca a lei. Buonasera, salve. Eccoci. Io vorrei fare una premessa al mio intervento, se possibile, velocissimo, prometto, giuro. Io quello che sto per dire non è non rispettoso delle vittime, ma secondo me è un'analisi di quello che sta succedendo. Noi abbiamo una quantità di norme, soprattutto nell'ambito penale, spropositata. Ogni giorno veniamo, che ne sono state aggiunte, diverse quantità proprio, anche non utili fondamentalmente, perché basterebbe che ciascuno facesse applicare le norme che già ci sono, e mi riferisco per esempio a quello che secondo me è più un fatto culturale che un fatto di natura e necessità penale, che è il cosiddetto femminicidio. Mi spiego, noi abbiamo l'omicidio volontario, nel senso io decido di uccidere una persona, prevede l'ergastolo, cosa c'è di più grave? Io mi domando questo, nel senso, cioè, è necessario introdurre una nuova norma che dica che esiste qualcosa di più grave dell'omicidio volontario? Marco, non lo so, io mi rimetto a eminenti giuristi. Io non lo sono neanche. Però mi sembra un dibattito nel quale non mi ci infilerei, almeno. Sì. Grazie. Ci sono due o tre commenti. Abbiamo scoperto il professore di prima, chi è in realtà, sì. Perché due ascoltatori diversi, al 349-238-6666, ci scrivono. Questo adesso dice, scusa Magda. Magda, ed era Verdone, no? E questo dice Simone. Un altro ascoltatore dice, il professore con la voce ipnotica mi ricorda il professore logorroico di Bianco, Rosso e Verdone. Allora era Verdone. Era Verdone che non aveva niente da fare. Carlo da Udine, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Rapidamente, nel sentire le dichiarazioni degli esponenti del PDL in questi ultimi periodi, e temo che le sentiremo ancora a lungo, sono arrivato al punto di augurarmi che stessero mentendo sapendo di mentire, perché questo significherebbe che hanno fatto una loro valutazione, hanno tratto delle loro conclusioni, delle loro convenienze e hanno preso una posizione. Cioè, lei dà per scontato sarebbe che ci grave, sia la menzogna, però. Qual è la menzogna, sì, scusi? Che stiano mentendo sul fatto che un pregiudicato debba essere considerato innocente. Allora, sarebbe molto più grave, dal mio punto di vista, che loro fossero intimamente convinti di essere nel giusto e di avere ragione. Perché allora mi chiedo qual è la loro capacità di valutazione residua. Della realtà, proprio lei dice, ecco, cioè, sì, perché, sì, ma sì. Guardi, troverei molto sì. più inquietante il secondo caso, perché il primo mi darei una spiegazione. Hanno degli interessi dei tornaconti, il capo è uno, senza il capo non andiamo da nessuna parte, e quindi il castello sta in piedi. Sarebbe molto più grave se stessero dicendo che di fronte a una sentenza definitiva il capo continua a essere un innocente. Qual è la loro capacità di giudizio? Abbiamo capito, grazie Carlo. È chiaro che è estate anche per le telefonate, direi. Allora mi fermo qua, non vado oltre il commento. Vabbè, dai, la bella storia di questa sera. Tiriamo il fiato, è arrivato il momento, l'estate, venerdì, eccetera, ma poi tutte le sere a quest'ora siamo questa volta a Milano, in un condominio particolare. Via! Un condominio reso in realtà particolare dall'iniziativa di un condomino che salutiamo intanto. Roberto Chiappella, buonasera. Buonasera. Buonasera. L'idea di questo condomino, del condominio di Milano, poi vediamo se lui vuol dire anche l'indirizzo, penso di sì, è quello di creare una biblioteca all'interno del condominio, una cosa che non si era mai vista. È partito come una favola questa storia, da una scatoloni di libri ritrovati che qualcuno voleva buttare via e che il signor Roberto ha preso, ha messo in uno stanzino, poi ha chiesto l'autorizzazione all'assemblea condominiale, sono stati vari step. Noi l'avevamo intervistato, si può fare nel weekend, qualche tempo fa, quando finalmente ci aveva dato la notizia. È nata la biblioteca nel condominio di Milano. E questa è una favola, Roberto. La favola va avanti, la favola continua, diciamo che sta andando abbastanza bene. Comincia a venire un po' di gente, non tantissima. Poi sarà ad agosto, adesso è un po' difficile adesso ad agosto muovere. Ma i libri sono sempre libri che vengono trovati o vengono a questo punto donati dai condomini? No, non vengono solo donati dai condomini, perché se no ne avremo neanche tantissimi. Vengono da fuori, ce li mandano un po' da tutte le parti. Ah, però. Si è creata, si è diffusa la notizia, e quindi perché all'inizio tutto nacque col fatto che, perché molti di noi si sono trovati a volte che ci sono dei libri, magari fai il trasloco, non c'è posto, c'hai troppi libri e ti piange il cuore, però dici boh, che faccio, li vado a vendere, non li compra nessuno, li lei ha trovato nelle scatole di fatto con dei libri. Non era proprio una scatola, però erano dei libri dentro nel cassonetto. Ancora peggio. Ho cercato di creare un posto in una stanza vuota che non si aveva nessuno, di fare una specie di ritrovo per i condomini, per venire giù a fare quattro chiacchiere, socializzare, insomma. Ed è questa la, è nato un po' così, ecco, il libro è stato un po' un veicolo. Il pretesto, ecco. L'idea, la cosa bella di questa iniziativa di Roberto, che lei è in pensione, faceva radiotecnico, se non ricordo male. Sì. Cioè di cosa si occupava? Riparavo i televisori. Un mestiere che adesso non c'è più. Che sta sparendo, ecco, diciamo che usa e getta. Perché adesso non si aggiustano più, prima c'erano quei... Fra l'altro portare il televisore ad aggiustare era una delle cose più faticose che l'essere umano abbia mai provato. E adesso volano, sono talmente leggeri che volano. Però non si aggiustano. Volano nel cassonetto però, quando volano. Sono rotti. Appena c'è, non so, una scheda che non funziona. Certo, così, è vero. E quindi, insomma, lei con questo pretesto del libro però ha voluto anche dare un messaggio al suo condominio, perché lei un bel giorno ha chiesto l'autorizzazione, quindi ha dovuto riunire l'assemblea condominiale. Cosa hanno detto le facce dei condomini quando lei ha fatto questa proposta abbastanza originale? Ma le facce non sono state tutte contrarie. C'era qualcuno che era molto scettico, c'era un signor uno solo molto contrario. E come mai? Con quali motivazioni? La motivazione ce ne sono tanti, preferirei non dirle qua. Vabbè, io per esempio ne dico una io per cui nel mio condominio non vogliono mettere le biciclette con le rastelliere per il decoro. Per il decoro. Però... perché c'è sempre questa cosa del decoro, per cui non si può fare niente nei condomini. Ma noi avevamo il problema della sicurezza più che altro. Vabbè, questo magari è già più. Entrava e usciva la gente, ma noi li accompagniamo dentro. Ma perché la biblioteca è aperta anche per, diciamo, non è aperta solo ai condomini, anche per chi viene. No, è per tutti. Ma ce lo deve spiegare, però. Ha ragione, non gli avevamo fatto la domanda. Vorrei dire una cosa. Sì? Dica. Posso dirla? Certo. Allora, noi abbiamo gli orari che sono 3 giorni alla settimana. Dalle 16 alle 18, e cioè sarebbe lunedì, mercoledì e sabato, sì. E può venire chiunque. E queste persone vengono accompagnate dentro e prendono il libro, fanno due chiacchiere, quello che è, e poi vengono accompagnate fuori. Via questo Rem. È regolamento. Possiamo dire anche l'indirizzo? Come? Via Rembrandt al 12, anzi, posso aggiungere una cosa? Sì, certo. Bene, noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Biblioteca Rembrandt 12, e se uno vuole seguire delle cose e lo sviluppi delle cose così. Ma io avevo capito che fosse molto più per il condominio, per far socializzare. Questo è nata così. Che mi sembra una bellissima idea, cioè che va anche al di là del libro, cioè. Però le persone dentro il condominio ora, quando entrano quelli esterni, socializzano anche con quelli esterni. Certo. Senta Roberto, le voglio fare una non domanda. Non c'è razzismo, diciamo, tra i vari condomini. Le voglio chiedere una cosa però, Roberto. Quanto al fatto di leggere, no? Perché insomma si dice che si legge un po' meno, più passa il tempo per vari motivi. La gente sta attaccata al computer, i libri, quindi sono un po' messi in discussione. Chi è che invece si interessa all'oggetto poi della sua iniziativa, il libro? Sono più giovani, più anziani, sono più donne, uomini? Come funziona? Allora, sicuramente dalla pagina e dalle persone che vengono lì sono molto giovani, che vanno dai 25 ai 45-40 anni, poi si scende a 15 anni, così leggono poco, fino a 18-20, sì. E poi dopo via così fino a scendere. Diciamo che le persone più anziane leggono molto, ma vanno in difficoltà adesso perché magari vedono molto poco. Ah beh, questo quindi è un problema. Quello è uno dei problemi. Certo, il problema della categoria anziano è quello della però, diciamo, però i bambini sono gli audiolibri. Secondo me i bambini dovrebbe essere una categoria da coinvolgere di più, Roberto, perché i bambini leggono libri per bambini, naturalmente. Potrebbe essere una... Lo so, ma infatti noi abbiamo anche tante cose per i bambini. Però certamente sono le mamme che ce li devono portare, sono le mamme che coinvolgono i bambini. Va bene, grazie mille per questo racconto, Roberto Chiappella, direttore della biblioteca condominiale di via Rembrandt a Milano. Una piccola storia, una favola anche in un certo modo, con cui volevamo chiudere questa settimana. Io anch'io raccolgo i libri di tutti quelli che li buttano via nel condominio, però sono molto meno altruista e li tengo io, devo dire che proprio non riesco. Con questo hai fatto una figura magra, però almeno hai salvato i libri, e questa è una cosa buona. Via. Ci fermiamo qua, grazie a tutti, Riccardo Buccero, Riccardo Poli, Andrea Piana che collabora alla scrittura del programma, Valeria Bernardi in regia, Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Ci rivediamo lunedì giusto? Prossimo. Io spero, confermato. Non lo so, sono confermato? Sì. E allora sono molto contento e ringrazio tutti e saluto gli ascoltatori. Buon weekend e anche a chi ci ascolta in podcast.